Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Il 6 marzo del 1946 nasceva a Cambridge il grande David Gilmour, storico componente dei Pink Floyd, che oggi spegne, pensate, 70 candeline portate divinamente. E io vi voglio dedicare questo pezzo meraviglioso della discografia internazionale, una canzone rimasta nella storia. È dedicata al diamante pazzo, l'amico indimenticato, Syd Barrett. Noi tutti vorremmo che fosse qui. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field? Ebbene, cominciamo subito la puntata di oggi, di domenica. Sono le 14:36 minuti e 8 secondi. Vicino a me un attore straordinario, ma devo dire anche ho scoperto un amico straordinario. Lui deve anche correre perché fra un po' ha l'ultima a teatro, al Quirino di Roma, con I Duellanti, ed è qui vicino a me Alessio Boni. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Pino. Ammazza che voce, che roba, sei partito con questa vocalità ai Pink Floyd, ma questa è una radio meravigliosa. Io sto qua, non vado a fare I Duellanti. No, no, devi andare a fare i duellanti. Alessio Boni parla, la voce per lui è fondamentale, è tutto, è stato sempre un grande... per un uomo, un attore attento alla vocalità. Si tocca il braccio perché secondo me tu con questa cosa a teatro questa sciavola di un chilo e mezzo, guarda Pino, la no ma guarda, se avete visto il film I Duellanti del grande Ridley Scott, che poi era se non sbaglio il primo film di Ridley il Scott. Primo film di Ridley Scott con Harvey Keitel e Kate Carradine, che io 77. Li confondo sempre con Barry Lyndon, che invece non c'entra niente, quello è Kubrick. Certo, però sono similari, si assomigliano a quel punto, qualcosa di simile. Sapete che quel film si combattono dall'inizio alla fine, Boni, cioè, come vi è venuto in me? Chi è l'ha riadattato a teatro? È una cosa italiana o internazionale? No, è nostra. Guarda, abbiamo creato un gruppo che si è creato in amicizia, abbiamo portato le nostre adesioni, la nostra anima su questo Conrad, Francesco Nicolini il drammaturgo, Roberto Aldorasi che è con me è co-regista, e Marcello Pryor che fa Ferro in scena con me. Noi quattro ci siamo messi al Teatro alla Pergola, nella sala di Orazio Costa, abbiamo fatto la drammaturgia, trasposizione, abbiamo letto tutto Conrad, abbiamo messo dentro delle frasi anche quel Conrad di Cuore di Tenebra, bravo, quel poverello. Ci sono due frasi anche di Cuore di Tenebra, di Linea d'Ombra, del Compagno Invisibile, della Follia del Mare. Abbiamo messo dentro un po' di... Certo, l'adattamento non è difficile, è un adattamento pazzesco, perché loro si combattono per tutta la vita, in tutto il mondo. E poi fanno 17 duelli per 20 anni, ma non è solo quello. Come fai a trasporre in teatro fino a 600.000 uomini, 250.000 Il teatro è fantasia. Però immaginazione. Come la radio. Infatti io l'adoro la radio, perché vieni qui, non ti devi porre, non ti... guarda il capello che tengo, mi hai detto ma che capelli c'hai? Infatti non mi sono ancora pettinato. No. Perché è fantastico che arrivi solo con quello che sei. E la voce arriva, è evocativa in tutto quanto. Tu lo sai, ti dico una cosa che non dico quasi mai perché un po' mi vergogno, però oggi te la dico. Nel senso che il più bel complimento che ho avuto nella mia vita, ma non sto scherzando, al di là dei premi eccetera, che sono graditissimi, una volta feci un... dopo la Meglio Gioventù c'è stato un bordello eccetera, poi immaginare, andiamo l'esplosione a fare nel 2003 a Lecce, una trasposizione in una insomma parlando del film eccetera, Marco Tulli, tra tante foto, andiamo avanti, c'è una signora che fa: senta, ma lei sta qui ancora un quarto d'ora, 20 minuti? Io dico: certo signora, non c'è problema. Perché vado a prendere mia figlia. Ma sì, vado a prendere, sono qua, non si preoccupa. Viene questa ragazzina di 15 anni non vedente, comincio a parlare, io parlo così, molto spontaneamente come con te adesso, Pino, con loro, eccetera, e dico: ma scusa, ma tu sei non vedente dalla nascita? Mi fa: sì. E come, perché? Cioè, non c'è un aspetto fisico, mi faceva anche piacere, non è che ti innamori degli occhi, sì, della volto, delle spalle, del sorriso, esatto. Perché io seguivo incantesimo sulla radio, facevano tutte le puntate radiofoniche e l'ascoltavo, e mi fa: e tu parli col cuore. È vero, mi stanno dicendo dall'altra parte che io saluto. Abbiamo in studio Hugh Jackman. Sì, Wolf, me lo dicono in tanti. È vero, adesso assomiglia a Hugh lui, Jackman. È lui che assomiglia a me, perché lui è molto più giovane di me. Quindi. È vero, questa è la più grande complimento. Per me, detto una cosa, io me lo porto bellissima nel cuore, perché una ragazza non vedente in 15 anni mi dice, esatto, una cosa così, e anzi la saluto perché sarà a Lecce, sarà un po' più grande adesso. Pensa quanto è importante la voce in tutti i sensi. La voce è l'elemento di comunicazione più importante del mondo. L'altra volta stavamo parlando con un grande studioso della voce E ci ha raccontato che il 6% di quando una persona parla è l'attenzione che tu dai ai concetti. Pensa, solo il 6% ai concetti. È solo il modo. Il resto, certo, è voce e corpo. È vero. Per cui pensa la gestualità, come, eccetera, eccetera. Pensa a un attore quanto è importante. Ma non è poi la bella voce, lo sai, no, Alessio. È la voce utilizzata nel modo migliore. Ma ti ricordi la stentorità di Hitler? Pensa che tutto un pombolo che c'è, cioè, stato mica mi puoi dire che è bella sta voce. No. Uno studio fra Hitler e Beppe Grillo sono venuti uguali, togliendo le consonanti. Ci ha fatto sentire Berlin. Il file era esattamente senza le consonanti, era così. Senza tempo di sospensione, senza respiro. Non che lui dicesse le stesse cose, ma no, che ovviamente c'era stessa, no, ovviamente. La stessa rabbia all'interno, capito? Ti rendi conto? Senti, io ho percorso, abbiamo percorso anche con Alessia Navarro, che capo progetto, e Damiano, l'altro autore. Ciao Alessandro, la nostra caporedattrice di là, Gaia. E i numeri ve li ho dati, ma li conoscete: 349-238-6666. Tutti i nostri social sono aperti e lo sapete. Non voglio perdere tempo con Alessio. La tua carriera è stata interessante, perché tu sei andato prima in America a fare quello che normalmente fanno gli americani in America, cioè voglio fare l'attore, allora vado a lavorare come parcheggiatore, vado a fare il pizzaiolo. Ma sai che io quando sono andato in America neanche pensavo di fare l'attore. Cioè sono andato perché ho fatto il poliziotto. Come poliziotto? Ho fatto il militare al terzo reparto Celere, e ti dico che stavo sempre agli stadi con le spalle contro la partita, dovevi vedere sugli spalti. Mi sono rotto perché non era il mio mondo, no, ci mancherebbe. Poi eri giovane, avevi 20 anni. 20 anni, poi ho lasciato, con un pazzo siamo andati in America, avevo guadagnato, mi ricordo sempre, 12 milioni, lì andai là. Ehi. Per imparare all'UCSD l'inglese, eccetera. Pensavo che era il mondo delle opportunità, l'86, l'87 c'era il mondo in America, no? Invece proprio, se non ti sposi, non c'è la green card, sono andato a fare il babysitter, poi morì, ho fatto il lavapiatto, ho fatto di tutto, il parcheggiatore, come dicevi tu. Il sogno americano è per gli americani. Basta. E quindi sono tornato senza niente, non sapevo che fare, cosa, poi ho fatto l'animatore turistico, da lì ho cominciato a fare gli spettacolini, e da lì ho detto, ma sai che mi piace questa cosa, provo, qual è la scuola più importante? Ma lascia stare, non ti prenderanno mai. Qual è la scuola? L'Accademia. Ho tentato, ma non preso, sono qua. Però, chi era il direttore di quel periodo? Era Musati. Sì, sì. Luigi Maria Musetti. Era ancora un bellissimo periodo per l'Accademia. Io facevo la spalla d'ufficio in quel periodo. Io avevo il mio grande maestro Orazio Costa Giovangeli, che devo dargli tantissimo, con il suo metodo mimesico, che è l'unico che ha costituito poi un metodo di recitazione in Italia. Studiato. No, ma la ciccia vera, per dirla un po' basilare. Bella quella, classe. Fabrizio Gifuni, Luigi Locascio, Pier Francesco Favino. Cioè c'era, è stata l'ultima infornata importante, come era quella di una volta, perché ancora la gente sceglieva di fare questo mestiere. Bravo. Perché adesso lo amava. Ci sono molte. Adesso c'è le scorciatoie. Adesso. Pensi che con questo mestiere, una volta certe ragazze ti chiedevano magari la pelliccia, una macchina, adesso chiedono la trasmissione, chiedono la fiction. È cambiata in questa. E infatti ci stiamo rovinando. Infatti senti pure la recitazione, com'è certe volte in certi fiction, tu non dire niente perché le fai e devi continuare farle. Però è importante capire questa cosa qui della voce, come stai dicendo tu, anche del parlato. Non si parla più adesso come si parla già 10 anni fa. Se tu ti ricordi come parlavi 10 anni fa, parli in modo diverso, Pino. Quello assolutamente. Perché va nella modernità, e se non fai questi studi, se non però vai dentro, non lo vedi tu, lo vedi, tu hai fatto Walter Chiari. Ed eri Walter Valterone. Chiari. Eri Walter Chiari, venuto da qui Valeria Fabrizi, l'altro giorno abbiamo parlato di te. Abbiamo parlato, capito? E tu hai fatto Walter Chiari ed eri Walter Chiari. Poi stai in io scena. Ho chiesto un sacco di cose, Valeria. Stai in scena con i duellanti e non fai Walter Chiari. No, stai recitando a teatro. Certo. E allora devi utilizzare il mezzo. La passione è la concentrazione al desiderio di come quando sei innamorato di tua moglie. Non scambi gli occhi, la concentrazione, il desiderio della tua donna. È questo che deve portare in scena invece chiunque. Adesso quando recita tu lo senti che fanno dobbiamo andare. Ti ho detto mille volte. Lasciami stare. Che, no. O strillano. No, non mi toccare. Oppure in questa maniera. Come? Dice, c'è il televisore che funziona. E invece qualcosa. Però divertente. Dobbiamo andare in pubblicità, vero? Di già. Sì, no, partiamo già 15 minuti. Vada, volano. Poi abbiamo un altro blocco con te prima di lasciarti fuggire. Va bene, e che ora comincia? Al Quirino alle 17, no? Alle 17, però io... Un'ora e mezza prima. Sì, ma i capelli ce l'hai già fatti, le basette pure. Non devo lisciarli, devo lisciarli. Ragazzi, Hugh Jackman. Meno male che la radio non ha la televisione, perché a me mi fanno ridere quelli che vogliono fare la radio in televisione, si chiama televisione. Il libro con le figure si chiama fumetto. No, ma per tu sei anche fin troppo vestito bene per essere in radio. Guarda che figurino, quello si sapeva, anche giacca e camicia. Hai pazzesco. Capito? Ma la bellezza fisica, il mio corpo, ne vogliamo parlare? È spaventoso. Esatto. Ha solo gli occhiali e basta, ve lo dico. Il resto è perfetto. A tra poco, signori, con Alessio Boni ancora qui e Voice Anatomy è appena cominciata. Voice Anatomy. Bentornati signore a Voice Anatomy, 14:46 primi e 36 Voice secondi. Voice Anatomy, bellissimo. Ecco. Bellissimo il titolo, Voice Anatomy. Alessio Boni al mio fianco, rimarrà con noi ancora un quarto d'ora prima di scappare, fuggire al Teatro Quirino di Roma, dove terrà l'ultima replica di questo spettacolo fortunatissimo, perché interessante, perché importante, I duellanti, tratto da Conrad e tratto da quel film straordinario di Ridley Scott. Pensate, la fatica, ne parlavamo all'inizio, drammaturgicamente, sì, come riportarlo in scena, come poi portarlo in scena. Ma anche il messaggio, che al di là di quello che fai, senza dover spargere sangue per forza. Ma la soddisfazione è enorme. La stoccata la devi dare. State ancora in scena, andate in giro, vai in tour. Domani sì, partiamo, andiamo a Ponte d'Era, poi Savona, poi Lerici, poi Livorno. Scavalca montagne, veri, come una volta. Il teatro che... proprio tournée, proprio in giro, come dei gitani. Ci tengo a dire una cosa, che mi sono presentato davanti a una ragazza di 32 anni che si chiama Federica Vincenti, che è la produttrice del Golden Art, e gli ho detto: io vorrei fare I duellanti. Ci ha pensato 32 secondi. 32 anni? Sì, 32 giovane. Anni, è straordinario, è una produttrice giovanissima, in gamba, e gli ho detto: io voglio fare I duellanti. Avevamo il successo del Visitatore con Abra. Sì, il Visitatore. Eravamo sulla scia di quello, e lei mi guarda e mi guarda e mi fa: ci sto. È la moglie di Michele Placido, sì, e lei: ci sto. Fia, è partito, quindi la devo ringraziare, perché non aveva né una traccia, né una riga, né carta bianca. Beh, tutta. Aveva un titolo, aveva, sì, una faccia, sì, un, sì, corpo, però, una voce. Sai, non c'era il testo teatrale. No, no, però devo dire che tante volte il titolo è una persona che te lo porta, per carità. Andava un'altra persona con sto titolo e diceva: va bene, ci sentiamo con calma, mandami una foto. Però le faremo sapere. Non tutti, bello. Non tutti, no, no, sono sicuramente così, no, lungimiranti, secondo, no, me. No, no, secondo me no. Quindi, anche perché è una cosa costosa e importante. Anche, infatti, sì, perché sì, sì, infatti, si investe produttivamente, è una produzione. E Marco Tullio come sta? Benissimo. Marco Tullio Giordana, che è venuto a vedere possibilità. Com'è nato questo rapporto? È da Incantesimo, che è una fiction leggera, divertente, nazional popolare. Al ti grande racconto, cinema con Marco Tullio Giordana. Ti racconto Giordana. Questa cosa, proprio, sono proprio gli aneddoti della vita. Io sono tuttora grande amico di Luigi Locascio, di Fabrizio Gifuni, eccetera, eccetera. Quando Luigi Locascio è stato candidato ai Davidi Donatello per I 100 passi, sì, lui ha detto: ragazzi, al di là di come vada, ma non lo vincerò mai. Poi dopo la BB Find era di Barbaga, fa una festa sul barcone, del Tevere, così, sì, poi ci vediamo dopo. Io ero a casa di Fabrizio Gifuni con un amico, Rosario Fugà, che è un flautista, a vedere sti David, sai, alla televisione. Certo, a fare, però, il tifo. Però c'era, non ti dico il parterre che c'era attorno a Gigi, era il primo film che faceva, la prima cosa, davvero io lo speravo, ma non ci pensavo minimamente che vincesse il David Gigi. E David, miglior attore, Gigi, siamo partiti, siamo andati sul barcone fino alle 3 di notte, cosa, è caduto pure il David, ma che bella cosa questa, fino alle 5 imbriachi, perché ero felicissimo, felice del successo, ma è la cosa più bella, il tuo successo e l'insuccesso di un altro, è una cosa stupenda, non ci potevamo credere, non è mai capitato neanche a Gian Maria Volonté, che fa il primo film, il protagonista David, cioè a nessuno in Italia, quindi proprio. E lui ci presenta Marco Tullio. Il giorno dopo Marco Tullio lo chiama: adesso ti cambierà la vita, vedrai questo. E poi ti invidia una cosa, l'amicizia con questi due amici, perché è veramente profonda e rara. Sappilo, nel mondo del cinema è rarissimo. Sì. Stacco, 3 mesi dopo arriva La Meglio Gioventù. Erano 3 amici e lui ha fatto diventare me e Gigi talmente, perché siamo fratelli, li ha fatti diventare fratelli, ed è nata La Meglio Gioventù così. Penso che è bello. Cioè, da questa forza che vedi, ha fatto i provini eccetera, sì, per certo, no, mancherebbe, no, però no, lui aveva in mente quella forza là. Quella forza però l'ha avuta in mente, se n'è fottuto da dove veniva. Quella complicità, quell'empatia. Marco Tullio credo sia un regista che, al di là veramente della professione della recitazione, cerca un gruppo di anime. E La Meglio Gioventù ne è l'esempio. È un gruppo di anime davvero. Da Maya Sansa, Jasmine, sì, Trinca, no, Sonia, no, funzionava Bergamasco, tutto. Lo puoi fare lungo in 10 puntate, lo sei puoi ore. Fare in film di Andrea 2 ore. Andrea Tiduna. C'era il primo Scamarcio, che era faceva, sì, mio figlio. Ti ricordi, aveva 22. È vero, l'avevo cancellato. Sì, Scamarcio, alla fine. Cioè, io no, parlo, sono nati una Jasmine, guarda che è successo che ha fatto, sì, su Jasmine. È stato un trampolino gigantesco per tutti voi. So come quei film magici. Guarda il Francis Ford Coppola, che anche lui cerca anime. Fai The Outsider, I ragazzi della 56esima strada, dove c'erano i primi Mickey Rourke, il primo Spice, sì, sì, il, sì, primo Tom Cruise, il primo Rob Lowe, Livia Vitale, Valentina Carnelutti, Andrea Tidoni, sì, la signora Asti era la più famosa, diciamo, sì, ecco, la signora Asti, vabbè, sì, vabbè, non aveva bisogno, c'era già l'Empals, però ce l'aveva, sì, sì, però è quella la cosa importante, e che non sia il valore aggiunto di quella sagra italiana. Lui, sì, poi non solo tu, hai avuto 2 o 3 esperienze insieme, sì, a sì, poi quando sei nato non puoi più nasconderti, il titolo è bellissimo, che è bellissimo, quando sei nato non puoi più nasconderti. Sull'immigrazione. Siamo andati sempre a Cannes, sempre. Poi uno ha vinto, l'altro ha vinto un premio della critica, un altro il premio della giuria. Insomma, ma c'è odore di collaborazione futura col maestro? Guarda, sta scrivendo, quindi boh. So che quando scrive si ritira fuori. Via, campagna, via. E non sente più. Tu gli hai detto che siamo molto amici, e te? C'è questa fusione di anime molto forte. No, non cerco, fuga di anime. Non cerco pose, assolutamente. E invece col teatro, adesso ti interromperai col teatro per dare spazio al cinema o alla fiction? Guarda, oppure... parto il 17 di aprile, finisco in teatro con i Duellanti. Il 27 di aprile, sempre con Marcello Pryor, facciamo un concertato a due al Piccolo Teatro di Milano, via Rovello, su Giorgio Gaber. Ci interessa molto questa poetica italiana. Tu mi canti? No. Mi trasponi? Ho fatto già Piero Ciampi, mi piacciono molto queste anime in fuga, appunto, si intitolerà, che descrivono l'uomo, e dalla poesia che ha scritto, che è la canzone, noi ne facciamo un concertato a due. Ma che bello! Ed è una cosa che facciamo da 10 anni. Ne sei una memoria? No, devo ancora studiare. Vabbè, ti chiamo, ti telefono a Milano, c'è Radio 24, sta a Milano, e quando stai in scena, molto volentieri. Vai lì, me ne leggi una da lì. Assolutamente. Mi serve, non puoi fare altro. Poi Gaber, è sfaccettato, ognuno che lo racconta, perché è molto gente ha raccontato Gaber, ma riesce sempre a raccontare cose completamente diverse, veramente. Perché cercava il noi, quello che ti dicevo prima, sì, non l'io. No, l'io è sbagliato. Come il tuo successo e l'insuccesso di un altro. È una cosa l'io, che... Tanto guarda, l'uomo è un animale sociale, Pino, ha bisogno dell'altro, è inutile. Lo dicono proprio anche i più grandi psichiatri, psicologi, eccetera. Quando sei bambino, a 3 mesi, tu bambino non hai neanche la coscienza, tu gli fai una boccaccia, la rifà, ha bisogno del due. Dell'altro, più importante di se stesso, fin dalla nascita. Tutti noi abbiamo bisogno. Poi dobbiamo essere bravi ad alternarci come leader, anche in un gruppo. Essere però leader è bello, leader è bello. Sì, c'è una vignetta. C'è una vignetta stupenda che ho visto su uno di questi libri di fumetti francese, che non mi ricordo il titolo. E c'era proprio questa vignetta in cui faceva vedere un masso enorme di un egizio che stava sopra il masso con una sedia enorme, con la frusta, e sotto 3 schiavi che spingevano, e scritto sopra boss. Stessa vignetta, masso, eccetera, leader, il primo che tirava davanti ai 3 schiavi e incitava gli altri a tirare il masso. Questo è il leader. Questa è la cosa bella del leader. Ce ne sono pochi, però, sono tanti boss. Sì, poi ci nasci con quella personalità, cioè ci nasci, puoi costruirla, però è vero, nascono diventano boss perché il potere fa diventare boss, ma non è meritato. Cioè, arrivano tanti complimenti, Alessio Boni, spettacolare. Saluto tutti. Alessio Boni, straordinario attore, grande uomo, anche grande Caravaggio, un'altra Luisa, sì, Caravaggio è vero. Grande Merisi, abbiamo... Michelangelo Merisi. Tu lì hai avuto un grande direttore della fotografia anche, che era Vittorio Storaro, se non sbaglio, che è un mezzo parente pure di casa, ormai lo frequento. Vittorione, che grande. Il filosofo della luce. Lula Taglia. Ti parla come le particelle luminose. Sì, a lui gli ho chiesto un giorno, senti, ma la nascita, dico non la nascita, il fatto quando lui esce da Apocalypse Now, Martin Sheen esce dal fango. Quella è la nascita dell'uomo. C'è i colori della placenta, la rinascita. Vedi, io impazzisco. Vedi che meraviglia. No, è il fango. Poi l'uomo nasce dal fango. Viene fatto da creare. Questi masnadieri di Schiller: l'uomo nasce dal fango, diviene fango. Bravo, i masnadieri. Quello bravo. Sì. A chi devi dire grazie? Guarda, tantissime persone, perché sarebbe strano dire solamente ai miei genitori per come mi hanno educato, ma veramente ho incontrato persone come Orazio Costa, Andrea Strallis, Marco Tullio Giordana, Roberto Andò e... Non in ordine alfabetico, ovviamente, se no Andò andava per però tante, ti volevo solo dire una cosa che... Dimmi. Mi ha fatto fare un salto e uno scarto di qualità con la Rai un signore che si chiama Carlo Lizzani, perché Carlo Lizzani è stato il primo a farmi fare un protagonista di un giallo accanto ad Antonella Fattori, La donna del treno. Io ero ancora un pischello, appena uscito dall'accademia, facevo solo teatro, eccetera, e ha creduto in te. Volevano altri due nomi che non ti dirò mai. La Rai insisteva, ma il signor Carlo Lizzani allora aveva ancora un potere. Dopo 6 mesi vinse la battaglia e disse no, io voglio questi due. Glielo fecero fare e da lì partì tutta la mia carriera. Io ringrazio sempre Carlo Lizzani. La stessa cosa è successo all'amico Montalbano Zingaretti, non lo volevano assolutamente. Mi ricordo che c'erano delle diatribe, c'erano diatribe su lui, ha detto fai una puntata su Rai 2 e vediamo come va, il resto è storia. Meno male, mi sembra che abbia toccato il 40%, grande Luca. Una cosa piccola così, un altro gran successo. Ci tagliano la testa, segnale di andare. È arrivato anche Angelo Maggi, nostro amico grande doppiatore. Io saluto, ringrazio Alessio Boni, grazie a te, in bocca al lupo per quest'ultima replica al Quirino dei Duellanti. Fuggi perché te devi truccare, non so che te dimette d'altro rispetto a quello che c'hai. A tra poco con Voice Anatomy, grazie. Ciao. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Voice Anatomy. Bentornati signori Voice Anatomy, sono le 15.00 e 39 secondi, vicino a me Angelo Maggi. Angelo Maggi, devo raccontare prima... Racconta, prego, prego. Beh, sì, ma è lunghissima la tua storia, un po'. Nasci il 16 dicembre del 1955. Vabbè, ma questo perché? Beh, la biografia nasce da lì. Che sono 35 anni ormai che abbiamo cominciato, Pino. Eh sì, amore mio, per cui attore, doppiatore, direttore del doppiaggio italiano, sì, abbiamo cominciato insieme. Ma la sua carriera vera inizia a teatro con... il grande Vittorio Gassman, seguita poi con Albertazzi, insomma hai toccato tutti i più grandi, fino ad arrivare al doppiaggio e continuando con il teatro, ovviamente ne parleremo in questi quattro blocchi insieme, avendo la soddisfazione di doppiare fra i più grandi attori del momento, da Tom Hanks in poi o il grande Robert Downey Jr., di Iron Man, tutta la saga degli Avengers, sì, no, ma tutti, perché poi hai questa voce così particolare che... non la inquadri e sta bene, la metti, sta come un bel vestito nero col papillon, il nero sta bene e su tutto, metti, sta. Vabbè, Pino, ma perché diciamo la qualità di un doppiatore, a mio modestissimo parere, prima di tutto deve essere quella di essere poco riconoscibile o comunque di avere una capacità camaleontica, di cambiare, sì. Perché bisogna un pochino, sempre dando la propria mettendoci della personalità, sennò saremo degli imitatori, insomma. Però quindi rispettando comunque sempre quello che ha fatto l'attore che noi doppiamo, insomma, quindi... Io mi sentirei, tanto per sottolineare chi è Angelo Maggi, andrei su un Castaway, visto che un film che si è fatto lui è un pallone e basta, e forse... ma sminuisce, Wilson non è un pallone, no, esatto, è un personaggio, è un Wilson. Personaggio, chiedo scusa, ma non parlava, per cui insomma, ascoltiamoci questo momento tratto da Castaway. Torno presto! C'è nessuno! Chiunque sia! Non è che per caso hai un fiammico, vero? Fuoco! Guardate cosa ho creato! Ho fatto il fuoco! Loro ci credono qui. 160.000, vi prego, 3-4. L'area delle ricerche è due volte più grande del Texas. Mai e poi mai ci permettiamo il peccato di voltare le spalle al tempo. Beh, fantastico. No, fantastico questo montaggio. Sì, mi è piaciuto. Non una cosa del genere montata in questo modo sono veramente i punti più belli del film. Questi qui. Sì, perché poi Tom Hanks è doppiato, almeno era doppiato prima anche da Roberto Chevalier, eccetera, senza nulla togliere le sue interpretazioni, però questo Tom Hanks ha un tipo di profondità forse diverso, serviva una vocalità, visto che parliamo di voci, diversa, un po' più sfaccettata, senza nulla togliere ovviamente a Roberto, che è un bravissimo professionista e un grande attore, che avremo presto ovviamente anche qui. Insomma, quello che diciamo sempre, Pino, noi comunque, che dice anche Luca, Ward, insomma, quando ne parliamo, insomma, comunque sia... rimangono sempre in buone mani, insomma, no? Sì, no, io lo dico fino allo svinimento, dico, quando perdi un provino nel doppiaggio lo vince un altro bravo, esatto, cioè, lo dici sempre pure te. Sempre. Tra l'altro anche nell'ultimo film, dopo insomma averlo doppiato una ventina di volte, diciamo, insomma, ci sono stati provini. Ma dai, anche sì, anch'io ho fatto adesso il provino su Sacha Baron Cohen, che ha fatto 8 film, ho fatti tutti e 8 io, dico, perché dobbiamo fare il provino? Gli americani sono così, anche perché Spielberg probabilmente voleva capire quanto la voce di Angelo Maggi era un po' maturata, insomma, se era ancora come 20 anni fa dopo quando che ho fatto ma hai fatto pure Terminal. Beh, dopo Terminal ho fatto Saving Mr. Banks, esatto. Captain Phillips, ne ho fatti tantissimi, tanti, poi se ne parlavo di Spielberg, quindi l'ultimo 3 anni fa, insomma, però evidentemente deve essere sempre attualizzato. Magari no. Dice andato dal dentista, sono cascati qualche dente. Fatto un ponte, dente. Capito? Se hai fatto il ponte, c'è una essa che gli fischia. È diventato così. Tanti saluti ancora da Alessio Boni, da parte dei nostri ascoltatori, sempre straordinari numeri, sapete, 349-238-6666 per gli sms. Se volete partecipare in diretta, 800-2400-24, ovviamente tutti i nostri social, Facebook, Twitter, tutto, siamo pronti e attivi su tutto. Come ventenne non posso riconoscere Angelo Maggi, come Iron Man sì, rende benissimo l'ironia del personaggio in italiano. Bene, sono felice di Angelo Maggi in trasmissione, ma tanto passo, ce n'è una, io stavo leggendo prima al mio amico Angelo, che mi uccide, mi massacra, non so per quale motivo. È ritornata. Di no, l'altra era più divertente, quello che parlò male di me, che dice che la puliva a casa tutte le domeniche, visto che c'avevo la voce uguale a aspirapolvere, va benissimo, ci sta. Però questa, il tuo squallore lo si deduce dalle tue parole, il tuo narcisismo, dall'intonazione. Al fine di capire chi sei, sarebbe però sufficiente la sola questione: può non essere squallida l'esistenza di un individuo umano la cui massima fonte di autostima è la propria voce? Ma amore, no, lavoro per radio, ma che devo fare? Allora, la voce ha detto che Angelo Maggi a me, cercheremo con lui di percorrere, oppure cercheremo con lui di percorrere un cammino diverso. Ma che devi un po' imbruttire sta voce, facciamolo che, contento. Ma io su. Fossi, ma io perché non mi chiami al telefono? Tu vuoi che parli così? Parlo in italiano. Poi se la voce mia è bassa, stiamo per te. La radio è bella per questo. La radio è bella perché cambia canale. Può pure cambiare, come dicono a Venezia. Serena, certo. Non offendo, Serena, perché non ti firmi. Se vuoi, chiama, io do, vedi che leggo tutti i messaggi, ed è giusto leggere tutti. Vabbè, invece c'è qualcuno che sta solo in Belprato e guarda il mio segugio Pino. Questa c'è un cane che si chiama Pino, non so se è un collega che scava alla ricerca di talpe dopo il lucertolo, e tra un po' vado a casa per ascoltare le belle vostre voci. Bene, siete una dolce pillola di felicità, va bene. Bella questa. Va bene, tesoro mio. Allora, stavamo parlando del tuo teatro. Il teatro, tu cominci lì. Il mio teatro, sì, io... Ma Firenze con la esattamente, bottega? Con la bottega teatrale, quando tu cominciavi con l'Allegra Brigata, esatto. No, che ci incontravamo in giro, eccetera. Sì. E io, sì, ho cominciato con Vittorio nel lontano 1980, facemmo questo spettacolo che rimase nella storia quell'anno, Pino, perché fu Fa male il teatro, insomma... Fa male il teatro fu rimase una pietra... Ma anche perché vennero, lui cercava sei giovani che fossero gli allievi suoi della bottega nascente. Sì. E quindi vennero 2000 giovani da tutta Italia a fare questa riunione alla Vides di Cristaldi per un mese. E lui faceva tipo il tabellone tennistico, ogni settimana scremava. Questo non me l'ha mai raccontato, mi fa piacere che me lo racconti. E eravamo così, alla fine c'era Andrea Occhi Pinti, per esempio, negli ultimi 24, Stefano Onofri, eccetera, da 48, 24, 12 e poi gli ultimi 6. E ogni settimana tu andavi, Eri il primo reality praticamente. Praticamente sì. Lui però fece, è bello, interessante. Fece questa teatro. Scrematura dove c'era negli ultimi 6 anche Nino Prester nello spettacolo, Americo certo. Fontani, che è un attore fiorentino, bravissimo, Francesca Ventura, insomma. E quindi sì, io ho cominciato. Ma voi facevate già parte della bottega no, di Gassman? Noi facevamo una cosa anomala, cioè lui fece queste selezioni, noi facevamo i 6 allievi in questo spettacolo, in cui lui raccontava cosa sarebbe stata di lì a 6 mesi la nascente bottega. Quindi io feci la scuola con lui dopo aver debuttato a teatro, un po' anomala. Lui. Sì, è strano. Strano, sì. Però bello. Però bello, infatti in quello spettacolo io devo dire che imparai molto da lui, rubacchiai da tutte le parti, però ero ancora molto acerbo, insomma. Anche se ti dico io il Gassman che amo di più, lo dico sempre, quello del cinema. Non c'è dubbio. E tu, io ho avuto anche la fortuna di fare un film anche con lui, che è stato un film particolarissimo, l'ho fatto con Alessandro, di padre in figlio, scritto con Alessandro da quando era piccolo fino alla... è vero, fu questa sorta di seduta psicanalitica. E io facevo un piccolo direttore di scena, insomma un piccolo ruolo in uno spettacolo che loro facevano insieme, che era Camper. Come era Gassman nell'intimità? Nel senso, non l'intimità in camera, no, va bene, l'intimità nell'amicizia, nella confidenza. Guarda, teatrale. Lui era un personaggio che emanava carisma. Da tutte le parti, Pino. Ci sedevamo al ristorante, e quello che mi ricorderò sempre è che tutti si volevano ovviamente sedere vicino a lui dopo lo spettacolo, i comici affamati. Lui oppure era così. Dopo un ristorante per esempio un po' scatorcio, dove diciamo scatorcio a Roma, insomma un po' bruttino, insomma dove si mangiava non benissimo, pensavamo. Bettoletta. Lui entrava così e lui faceva: qui è stato Bruno Cirino. Ce l'aveva con Bruno Cirino, non si capisce perché. Bruno Cirino che era un attore degli bravo. Anni 40, sì, 50. Un bravissimo attore, però lui ce l'aveva: qui è stato sicuramente Cirino. Ma questi sono i tormentoni che si fanno fra di loro, i grandi attori. Esatto. Che vivono di ste cose che noi non conosciamo. Infatti. E storie, chi lo sa, un'antipatia. E il grande Giorgio invece, che Giorgio io conosco Bertazzi. Bene ed è una persona fantastica, è arrivata a 96 anni. 94. A 94? Lui vabbè, non lo so, è in tournée in questo momento. Si è fermato un attimo con le memorie di Adriano, perché insomma... Era molto un po' affaticato. Un po' stanco. Sta facendo una tournée di un ventenne. Sto stanco io, Angelo. Siamo 40 anni di meno. Lui lo stanno facendo, insomma, fare delle tournée un po' faticose. Ma insomma, Giorgio è stato anche lui un grande. Abbiamo fatto uno spettacolo, Enrico IV di Pirandello, insomma, dove c'era un cast strepitoso. Eri uno dei quattro. Sì, io ero uno dei quattro. E questa curiosità è che mi scambiavo col mio amico Nicola Pistoia. Tutte le sere ci scambiavamo la parte. Perché facciamo due consiglieri, eccetera, c'era Massimo Mesciuna, ma anche, e perché dopo 315 repliche, insomma, non gliela facciamo più, Pino, per cui diciamo, Giorgio, scusa, possiamo io e Nicola? E lui, va bene, fatelo. Anche perché è abbastanza lungo, e poi la parte, sì, erano quelli dell'attor giovane. Però erano abbastanza... Vabbè, c'eri. Sì. Cioè, quello è importante. Enrico IV di Pirandello con Albertazzi, la regia di chi era? Di Calenda. Di Antonio Calenda. Tre anni di tournée abbiamo fatto. 315 repliche, non so poco. Amore, noi come te sei pagato affitto, come erano i soppopere, le nostre soppopere. Certo. Quando è stato... Amore, è come la telenovela, che è una cosa sicura. Senti, stiamo parlando tanto di teatro, anche se è un grandissimo doppiatore, la cosa mi fa tanto piacere. Poi voglio sentire un altro Tom Hanks. Ce l'abbiamo il Ponte delle Spie? Che è l'ultimo proprio grande fatica di Spielberg. Poi ti racconterò una cosa carina. Vai, Alessandro. Abbiamo una spia sovietica. Vogliamo che la difenda lei. Io mi occupo di diritto assicurativo, non seguo cause penali da anni. Ha assistito molti accusati di essere spie. Questa sarà la prima volta per entrambi. Dovrà fare attenzione. Lo sai come ci guarderanno? La famiglia di colui che vuole far liberare un traditore. Ogni uomo merita una difesa. Ogni uomo è importante. Tratteremo come i nostri governi non possono fare. Ehi, tratteremo come i nostri governi non possono... No, non utilizzavo, cioè basta. Si lui era nel film è un avvocato che praticamente fa nascere l'idea dello scambio dei prigionieri tra la Russia e gli Stati Uniti. Nacque così questa idea e racconta, il film racconta questo, un film storico. Devo vedere ancora, un film storico di... ha vinto quell'attore, il miglior attore non protagonista, perché è un grande... Mi dispiace per Stallone. Per Stallone, anche se non lo meritava. Cioè, però è veramente straordinario quell'attore. Doppiato molto molto bene da Tony Garrani. Tony Garrani, sì. Sì, con una lingua strana, mezzo russo, mezzo... Sì, ha l'accento. No, divertente l'aneddoto, Fiamma Izzo, insomma, nel film, chi l'ha visto, a un certo punto sentirà che esattamente a metà film Tom Hanks arriva a Berlino, più o meno a metà film, e il freddo, la neve di Berlino, altro clima rispetto alla California, eccetera, lui si raffredda, prende un raffreddore, probabilmente perché Tom Hanks si era raffreddato. Questo. Ah, ecco. E allora ha fatto dire, sì, ho un raffreddore, eccetera. La casualità ha voluto che io ebbi una bronchitella più o meno a metà film. Beh, ho capito. E allora Fiamma, quando arrivai una mattina al turno, mi disse, Angelo, con questa voce tu non puoi assolutamente... Poi facemmo, come tu conosci molto bene Fiamma, facemmo degli esercizi insieme a lei. Vocali, sì, sì. Vocali, eccetera. Dopo un tre quarti d'ora così, un pochino è rientrata la cosa e una scena dopo si sarebbe raffreddato Tom Hanks. Per cui da lì in poi... Era perfetto. E sono stato... Per cui la gente dice, molto spesso mi dice, ammazza quanto sei stato bravo, eri raffreddato uguale come lui. Esatto, non dirlo. Adesso no, ho voluto svelare sta cosa perché me la c'avevo... Grande vino, una puntata più bella dell'altra. Angelo Maggi è per me il doppiatore per antonomasia. Un mio riferimento. Vedi, devi sapere che io ho intrapreso da qualche mese un percorso per diventare doppiatore. Proprio ieri a lezione un fonico ci ha arricchito con un aneddoto riguardante proprio Maggi. Attenzione, durante il suo lavoro su Willis, Bruce Willis nel Sesto Senso, è vero che tu hai cominciato... altro film storico, fantastico. Tuttora, quando finisce dico no, è pazzesco. Egli non sapeva, se non alla fine, che il suo personaggio in realtà era morto. Esattamente. Dall'inizio, mio Dio. Esattamente, Francesco Vairano non ha voluto che io vedessi il film. Ma è giusto, perché... non lo devi sapere. Va visto due volte il film in realtà, ma e lo godi, lo vedi in un altro modo. Ma un attore non deve sapere, perché poi ti comincia a abituare. Quando ho doppiato De Parte, De Mark Wahlberg, era lui l'assassino, io non lo sapevo, non ho saputo fino alla fine. Così deve essere. Perché infatti non l'ho doppiato quando uccideva quello, perché non ne metteva un fiato. E l'amico Rodolfo Bianchi non me l'ha detto. Non te l'ha detto, certo. Un altro, in un film bellissimo, ricordo, di Michalkov, lui era il deficiente, non l'altro, ma non me l'ha mai detto. E l'ho doppiato in una maniera più neutra, più giusta. Certo. No, non deve sapere. Se ti dico, guarda, quell'attore, quel personaggio diventerà gay all'ultimo. Tu all'inizio cominci a fare, sì, a butti lì. Comunque fai una cosa. Certo. Quello è il cattivo. Allora fai così, vabbè. Siamo arrivati alla fine del... No, alla fine sta tranquilla, alla fine, ma alla fine dell'inizio. Ma figo, io starei qui due ore. Ma ci stai? Non è no, due ore, ma non è te piacevole sta con te a parlare. Ma meno che per quello che non ci ha più risposto. Però meno male così. Però c'hai un riferimento, e non solo. Allora, signori, a tra poco, a quale domande arrivano? A quale forma di recitazione è più affezionato Angelo Maggi? Sì. Teatro, cinema o doppiaggio? Questa pensa è una che domanda... prima o poi aprire una scuola di recitazione? Grazie in anticipo, Claudio Forte. No, lo posso escludere, ma quale forma? Ma se non si può dire tre figli, a chi vuoi più bene i tre figli? Però sicuramente amo il doppiaggio più delle altre forme espressive di un attore. Te lo dico in sunto. Prima di tutto perché... Hai 10 secondi. È più meritocratica. Finito? Esatto. Sì, ciao. Finito, ci vediamo tra poco. Tra poco, sempre con Angelo. A tra poco. Voice Anatomy. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta... Voice Anatomy. Eccoci di nuovo nel viaggio all'interno dei mondi della voce con Angelo Maggi. Stavi raccontando velocissimamente a quale forma di recitazione sei più affezionato. Il doppiaggio io lo amo più delle altre, probabilmente, Pino, perché... Per la meritocrazia. Ma secondo me mi farò un sacco di nemici. Ma no, è la verità, perché il talento alla fine, se c'è, non puoi fingere, non si può fingere. Se tu sei lì, ci sei arrivato perché lo meriti. Ah sì, lì davvero, non ti puoi andare a letto con nessuno. E poi perché, avendo la fortuna di doppiare queste grandi star americane... ti arricchiscono molto come attore. Certo, sei anche tu che rubi da loro, ma per forza. Anche perché adesso poi fra un po' parleremo del tuo spettacolo, anzi diciamolo anche subito, questa, visto che la gente ci sta seguendo, il tuo doppiatore, che è la voce Oltre il buio, è bellissima questa cosa, che è dall'8 al 20 marzo al Teatro Belli di Roma, che è proprio nel cuore di Trastevere sì, diciamo, Piazza Santa Maria in Trastevere, teatro storico. È un teatro che io ho amato molto, sono stato recentemente, è un piccolo teatro ma dove debuttò Petrolini e c'è molto amore in quel teatro. Allora starai dall'8, so che ho fatto una cosetta anch'io, non retribuita ovviamente, come tu non sei retribuito oggi qui da me. Scambio la parte. Ho capito, tu te ne sei approfittato perché mi hai messo pure in video, vabbè. Tra l'altro... Succede in questo spettacolo? Tu mi ci hai fatto capire niente l'altra volta, vieni a casa, mi fa una cosa, non sei doppiatore. Deve essere succede? Un po' una sorpresa, deve essere allora per te quando lo vedrai, però qualche cosa bisogna dire, insomma. È uno spettacolo, un grande spaccato del doppiaggio, non è assolutamente una commedia. È un grande recital, come dicono i miei, in cui si racconta un po' chi è il doppiatore, rispondi alle domande che ci fanno anche i radioascoltatori. Ma lei è un doppiatore o un attore? Ma quante volte lo dicono? Dice, non voglio fare l'attore, voglio fare solo il doppiatore. Non lo può fare. Oppure i giovani che te vengono e ti dicono, ma io vorrei fare tanto il doppiatore. Ma non è un mestiere. Certo. Io ho voglia di dirlo. È una specializzazione del mestiere dell'attore. Voglio fare chirurgo, ha fatto medicina. Sì, esatto. E quindi lo spettacolo pieno di contributi filmati in cui c'è anche Pinuccio, Massimo Lopez, Marina Tagliaferri, Luca Ward, con cui io interagisco. I primi tre del viaggio di Anna. Quando verrà Luca Ward qui, che sta sempre in tournée? Ma è possibile? No, non c'è mai, infatti non verrà neanche al mio spettacolo. Viene, ma sta a Milano. Che sta in Milano, lo so, l'ho sentito e ho detto, Luca Ward, sei i primi tre doppiatori d'Italia, sei te. Che noi ci scherziamo fra di noi. Tu numero uno. Esatto. No, lui è numero uno, lui. Due e tre. Lui tutti e tre, certo. Ma noi ci scherziamo sempre ogni volta e non vedo l'ora di averlo qui per giocare un po' con Luca. Insomma, io mi rivolgo soprattutto al grande pubblico che, come fai tu, andiamo nella stessa direzione con la tua trasmissione, Voice Anatomy, cioè io racconto un po' chi è il doppiatore, faccio vedere come si fa, faccio entrare il pubblico in una sala di doppiaggio. Ma può provare il pubblico? No, è parzialmente interattivo il pubblico, però questo non l'ho fatto, come hai fatto tu invece... più volte nel gran premio. Questo deve essere comunque uno spettacolo quindi non è una prova da tu. No, esatto, è una prova dilettante. Però raccontandolo, insomma, non deve diventare una Alexio Magistralis in pieno, quindi è comunque uno spettacolo. Non ti prenderei troppo sul serio, no, assolutamente. E poi molto importante, io ogni sera ho, e questo mi fa particolarmente piacere, ho un ospite d'onore. E saranno tutti i più grandi doppiatori italiani, da Monica Ward a Chiara Golizzi, Stefano De Sando, Fiamma Izzo, Francesco Prando, Marco Medito, Midilla D'Amico, Alessandro Quarta. Tutti i più oggi grandi. Oggi per la prima volta riesco ad ascoltare il programma e bam, Angelo Maggi, grazie. Grazie, prego. Vittorio da Rimini. Però te dovrebbe ascoltare un po' più spesso. No, vabbè, è importante che ce ne sei anche tu. Grazie, bravissimo Angelo Maggi. Ciao ragazzi, gran programma, ospiterete anche Haruhiko Yamanuchi, prima o poi, voce spettacolare. Credo che sia colui che doppia sempre gli orientali in italiano. può darsi. Io chiedo scusa. Purtroppo scusa. Non lo conosco. Voi ne sapete veramente tanto. Io dico sempre che il nostro pubblico qui di Radio 24 è veramente preparato più di ogni altro conduttore. Assolutamente. Addirittura ci ricordano ogni tanto che cosa abbiamo fatto. Sì, sì. E per quale motivo sono affezionati a noi. Appassionati, sì. No, no, sono veramente pazzeschi. Mi informerò perché è interessante. Perché se è quello che penso io, sicuramente sì. Perché avere qui il doppiatore, adesso voglio capire come si chiama, il doppiatore dei film orientali, in italiano, e c'ha quella calata giapponese che è difficilissima da ricreare. Sì, anche se nell'ultimo Samurai spesso noi diamo l'accento, no, per personaggi che noi... No, il giapponese no, no. No, il giapponese se puoi iscrivermi ancora, Pietro, mi spieghi, accetto la mia ignoranza, raccontami un attimo di questo Haruhiko. Va bene? Cioè, Gualtiero Carnarsi non riesco a chiamarla adesso. Che lui esperto, esperto davvero. Che poi tu hai fatto, invece, ovviamente continueremo anche a parlare del tuo doppio attore al Teatro Belli dall'8 al 20 marzo. E tu anche cinema, il cinema quello leggero, quello nazional popolare, I sapori di mare. Tu eri il ragazzetto dei film manziniani. Un bel ragazzetto, insomma, lì ne ho fatto io qualcuno. Quando ti ho incontrato la prima volta al doppiaggio, sì, ma vedi chi c'è. L'attore dei film dei Vanzina. Ganza è sta battuta, è stata proprio Ganza, sì, era uno dei due gemellini Pucci, che a quell'epoca, insomma, essendo poi diventato un cult, insomma. A me lo dici che ho fatto Carlo Vacca, mezzo destro, mezzo sinistro, esatto, con Gigi Andrea, doppiato in Veneto da Sagliocca. Mamma mia. Beh, peggio di quello. E insomma, sì, è stato stato un bel periodo. Ma quelli erano belli, i film che hanno incassato tantissimo. Ma sì, hanno fatto veramente la storia del cinema. Dopo Gassman, dopo Albertazzi. Un paio d'anni dopo, sì, quegli anni lì erano 83, 84, 85, sì. Ma va bene, va così. Benissimo così. E ancora non ero proprio ben entrato nei doppiaggi. Infatti, la prima volta che entrai in una sala di doppiaggio fu quando mi doppiai nelle integrazioni. Facciamo Il sapore di mare, il primo Sapore di mare. Prima sì, il e poi era quello, 85. Entrai per doppiare me stesso. Quando siamo incontrati noi era quel periodo, gli anni 80. 82, 83, sì, sì, sì, sì. Quando tu stavi con i primi spettacoli che facevi... Prima ancora della prima vita. A Shakespeare, sì. Al Teatro delle Muse. La prima volta che vedi un tuo spettacolo alla Lega Brigata fu al Teatro delle Muse. Sì, sì, Giulio Cesare, ma non lo dite a Shakespeare. Sì, sì. Inviterai Massimiliano Rossi? Massimo Rossi Massimo Rossi l'abbiamo invitato, sei uno di quelli proprio assidui, infatti a Haruhiko Yamauchi, Ultimo Samurai, lui recitò anche in Nirvana Christopher Lambert, sì, è lui. Ah, sì. È il doppiatore, quello che dicevo prima, sì sicuramente, guarda, grazie per quest'idea, lo cercherò, se è a Roma e vive qui sicuramente sarà molto interessante parlare con lui, visto che parliamo di voce. Sì, Massimo Rossi l'abbiamo invitato, domenica prossima invece verrà Alessandro Rossi, che è Liam Neeson, la voce bella al cinema. Sì, Schwarzenegger. Lui mi farò fare dei promo proprio. Sì, dovete un po' tarare i microfoni, sì, perché sì. Spacca tutto. Sembriamo Duca Strati noi in confronto due operati. Lasciamo sta. Insomma, è quel periodo lì si è alternato con il cinema e poi la fiction tutta. Poi c'è stato un bel intervallo in cui mi sono dedicato interamente al doppiaggio e poi ho ripreso a fare un po' di televisione, di fiction, e ultimamente ho fatto una cosa molto bella con la regia di Negrin, L'Isola, che è stato per due anni un serial molto seguito. Mm-hmm. Ma insomma, gli hai dato più te a loro, agli attori americani, o ti hanno dato più loro a te, o gli attori inglesi, anche francesi, perché ne hai fatto anche ma Quasi Amici. Come si eri fa? L'uomo sulla sedia a rotelle, o sbaglio? Su Quasi Amici, sì, sì. Attore Io certo te non ti riconosco. Attore straordinario. Ma che domanda, Pino, come si fa a dire hai più dato loro? Come dici te, loro ci prestano il corpo. Noi esatto. Ma sono tutti questi grandi attori, probabilmente mi arricchiscono più loro, insomma, di quanto possa io dare. Sì, ma tu calco che lo fai sempre in 10 minuti, tu vai in sala, loro hanno avuto un anno di tempo, sì, per sì, prepararsi, sì, sì. Devi dare un concentrato di emozioni che loro hanno dato in uno lasso di tempo un molto pochino più largo, così è facilissimo, sì. mi fate sentire un Maggi dannata? No, dannata nel senso non dannato, eccetera. Vabbè, mi sto incartando. Un The Terminal, dove utilizza la voce in maniera particolare. Lì eri russo, che cos'eri? Io cittadino di Cracovia, io stato inventario tra Bulgaro e Russia, sì. Va bene, dai. Pokojno. Non siamo tiach. Siamo živeje tuk. Nali, govoriš ruski? Da je ruski, ja! Oh, ej, s Spokojno, spokojno, ne se votja. Samo je živeje tuk. Allora? L'ha detto lui? Sì. Lui ha detto, noi non capito, io anche non capito. Capra. Perché? Che stai dicendo? Hai capito male? La medicina non è per il padre malato? No, no. In Cracosia, nome per padre, somiglia a nome capra. Io ho sbagliato, parola. Beh, interessante. Ma fantastica la scena che hai scelto. Dove lui parla... Ma guarda, devo dire che io sono solamente un avambraccio. Faccio i complimenti. Complimenti devi farli a Alessia Navarro e al signor Damiano con 12 cognomi. Alessia e Damiano, siete stati fantastici, perché questa è una scena probabilmente la più bella del film. È bella, divertente, malinconica, in cui lui salva, perché lui diventa l'eroe dell'aeroporto. All'interno dell'aeroporto, in un anno che lui rimane bloccato, perché lui è cittadino di Cracovia, non può tornare indietro perché c'è stato colpo di stato, e non può entrare in New York City perché lui è inaccettabile. Ecco, questa è la differenza fra te su lui e me su Sacha Baron Cohen di Borat, perché lui era russo e tutto quanto io c'è Massimo, io non è Borat, tu invece molto vero, molto sofferto. Infatti al blocco seguente, che andrà fra poco perché fra un minuto andiamo in pubblicità, ci sarà una lettura molto importante, un infinito di Leopardi. Conosci quel signore che ha scritto delle cose Vagamente, strano, fisicamente molto strano, dei problemi non indifferenti fisici, e tu me la leggerai con degli errori di dizione, di impostazione vocale, un po' la farai, ecco, come hai fatto Tom Hanks magari in Determina, vedere quanto può reggere una cosa del genere. Noi ci divertiamo con i colleghi a fargli leggere cose improbabili, le istruzioni di un trapano, della lavatrice, una canzone... Un po' come faceva Vittorio Gasman, che leggeva il menù. Era fighissimo. Sì, sì. Spaghetti all'arrabbiata. Sì, era bellissimo, era una meraviglia, sì. Per cui ci divertiamo ogni volta a fare una cosa del genere, va bene? Allora, tra pochissimo, Voice Anatomy, Angelo Maggi, a tra poco. Voice Anatomy. Tornati, Voice Anatomy, al mio fianco sempre Angelo Maggi. Stiamo ripercorrendo un po' tutta la carriera di questo grande, di questa bellissima voce, anche corpo, visto che hai cominciato con il teatro, e poi con quale teatro, insomma, fra Gasman, Albertazzi, eccetera, non è che ti sei fatto mancare niente. No. Poi sei stato sulla spiaggia con i Vanzina, con i Sapori di Mare, poi ti sei stato da solo sulla spiaggia, solo in voce, con Castaway e tutto ciò che... Quello è stato il primo film di Tom Hanks. Che ho doppiato, sì. È stato Francesco Vairano che ha scommesso su di me, perché insomma non ho fatto neanche il provino io per fare quel ha film. Creduto fortemente su di te. Insomma, ma è bello, devo dire che insomma... Santa miseria. Senti, prima abbiamo ascoltato The Terminal, dove utilizzi la voce in maniera particolare, fai questo... Di dov'è? Cittadino di Cracovia, sì. Cracovia. E però aiutato da consulente bulgaro, Vincent Gluharov. Sì. Mamma mia, che so delle rotture consulenti, perché vogliono che tu reciti meglio di come hanno fatto loro il film. Quando noi abbiamo fatto La promessa dell'assassino, che era russo, Viggo Mortensen, c'era una coaching russa di una bellezza assoluta, ma era direttamente proporzionale a quanto rompeva. Che lui pronuncia, no, Mamev Smirev se Pacoge, Pacoge Pino, Pacoge, capito? Dice Pacoge, perché io lo dico Pacoge? Te devi arrabbiare. Perché, vabbè, perché gli attori che noi doppiamo non pronunciano un bulgaro o un russo perfetto, invece noi probabilmente spesso lo facciamo meglio di loro, sì, così sì, mi è stato detto perlomeno che Tom Hanks e Angelo Maggi che sta là sotto, parlava un bulgaro più giusto di Tom Hanks. Capito, ma avete fatto sentire sto bulgaro stretto? Mi sono sorpreso che non lo sentivo tanto. Non lo ricordavi. Priesvani, niti vuoisca, mies, diet, vuesti. Hai capito? Pensa quando mi è capitato Mandela in sudafricano. Sì, me lo ricordo. Santa miseria. Senti, a proposito di questo, tu sei anche protagonista di una serie fortissima, che sono i Simpson, ovviamente, dagli inizi della sua storia, che con Winchester. Che avrà una parte importante nello spettacolo, il doppio attore. Non lo svelo come, ma insomma... Da quant'è che sei il doppio Simpson? Sono circa 25 anni. Niente, quindi, siete cresciuti insieme. Siamo cresciuti un po' poco, diciamo, insomma... Cominciato con l'indimenticato Tonino Accolla. Cominciato con Tonino Accolla e poi anche tu l'hai diretti per un periodo. Sì, un paio d'anni. Francesca. Francesca Draghetti, sì. Sì, insomma, ci sono un po' cresciuto con questo buffo personaggio geniale che ha inventato Matt Groening. E a un certo punto comincia a far parte della tua vita, comincia a parlare insieme a lui, capito? Adesso fai una bella cosa. Sì, dica. T'ho dato, visto che in ogni puntata i nostri colleghi si cimentano in qualcosa di strano, come faceva anche Gassman con il menù, eccetera, eccetera. Tu mi leggi questo infinito questo di Leopardi. Che mi hai appena dato? Metà me lo fai in quella lingua dell'est particolare, e l'altra metà con la voce di Proviamo, a di me, Winchester. A me vai. Buttarmi mi piace tanto. Buttate. Sempre caro mi fu quest'ermo collei e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Già sembra una dichiarazione di guerra. Ma sedendo e mirando gli interminabili spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni alla presenta, e viva il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragario mi è dolcio in questo mario. Vabbè, grande, bellissimo, bellissimo. Questo è un esempio di come la voce, poi ti cambia anche la faccia, ma quella non possono vedere. Non si è vista. Un minimo deve cambiare. Il doppiatore verrà a Milano? Speriamo. È una bella domanda. Noi speriamo di sì, senz'altro l'anno prossimo, di fare una tournée. Lo spero perché è uno spettacolo che io ho concepito per il pubblico di tutte le province italiane, insomma. Domanda sia per Pino Insegno che per Angelo Maggi. Posto e considerato che, come sostengono anche molti doppiatori, il doppiaggio dovrebbe rimanere un mestiere dell'ombra. No, noi non vogliamo che rimanga un mestiere fatto da... No, assolutamente, ma... No. Non credete però che la critica cinematografica dovrebbe dare il giusto peso a questo mestiere occupandosi di giudicare anche le performance dei doppiatori? Grazie di nuovo, Claudio Forte. Sì. C'è un bellissimo articolo nel programma di sala del mio spettacolo di Tommaso Landolfi, datato 1967. Ecco, che racconta molto bene questo insomma. Beh, leggilo. Lo leggo? Parliamo di voce. Fantastico. Non allora, è che stai fuori ne stai a leggere. Singolare cosa e ingiusto sembra che nei lunghissimi elenchi in apertura dei collaboratori di un dato film non si faccia mai cenno dei doppiatori, ai quali pure è affidata una buona metà dell'eventuale successo. Perfino i sarti sono ivi mentovati, con ciascuno di quella numerosa progenie che fa la corte al regista e le cui prestazioni si limitano magari al dire «Siamo pronti, dottore!». Perfino i guatteri, i portatori di pitali, i chiodatori di praticabile, i misuratori di campo e dei doppiatori non una parola. È dunque la voce un elemento tanto trascurabile dello spettacolo cinematografico? No, ognuno sa che essa, al contrario, ne è forse l'elemento preponderante e più suggestivo, il quale meglio della mimica determina la recitazione di un attore. Ognuno sa che anche o soprattutto attraverso la voce si forma e dura in noi segretamente l'immagine di un interprete e sa del pari che il più sovente, con opportuno e confesso accorgimento, al medesimo attore straniero è attribuita la medesima voce. E ricorda, per finire, quali eccellenti prestazioni ci abbiano in tanti casi fornito i nostri grandi doppiatori, i nostri grandi attori, sa da dire, costretti talvolta a questi esercizi di poco o nessun compenso. Ebbene, è possibile che quella tal voce il pubblico non debba sapere a chi appartenga? Possibile che l'opera preziosa di questi egregi interpreti debba rimanere ignorata? Converrebbe invece, nella rappresentazione del film, far menzione, primo, del regista, secondo, degli attori, e terzo, dei doppiatori, e poi, soltanto poi, di tutti gli altri. O forse i doppiatori non hanno sindacato? o forse si teme di dichiarare doppiata qualche nostra diva. Beh, bello. Ma dove l'hai trovato? Queste sono cose che fanno bene anche al calcio, penso. È bellissima questa, sì, anche perché credo che questo signor Tommaso Landolfi era un grandissimo giornalista, ecco, vedi, scrittore, senza... articolo di, 40, di 50 anni fa praticamente. Ma sì, questo veramente mette un serio punto esclamativo su quante, diciamo, ecco, questo articolo hai fatto benissimo a leggere, anzi lo metterei qui scritto in grande e lo leggerei ogni domenica, perché molta gente... No, molti no, devo dire, sono tutti molto affezionati alla voce, al doppiaggio, eccetera, ma certi puristi che fino a qualche tempo fa davano la colpa ai film doppiati per imparare l'inglese o il francese o il tedesco o chissà cosa. No, adesso dico, esiste un Blu-ray, ringraziando il cielo, basta, che tu un ditino, te lo vedi in italiano, poi te lo vedi coi sottotitoli, per carità di Dio. Ma insomma, il doppiaggio veicola come una bella traduzione di un buon libro che non segue la lingua, dove leggi in italiano. Che poi sappiamo che il sottotitolo fa perdere esattamente il 50%. Ma almeno. Io purtroppo con mia moglie, lei leggendo i sottotitoli quando io parlo e non capendo, si perde il 50% di me, io lo dico sempre, dice non mi ama così tanto, ma comunque. Senti amico mio, sentiamoci un altro pezzo dannata del nostro amico, Iron Man, non possiamo... No, esularci da Iron Man. Avrà una grande parte anche nello spettacolo. Eh beh, ci credo, insomma, santa miseria. Ha una grande parte nella tua vita. Te ti fai, secondo me, mi farei pure la maschera, queste cose qui. Non diciamo niente. Non diciamo, cioè, no, ti sei fatto il costume da Iron Man. Ti non giuro, no. Me alzo l'8 marzo, nonostante... È la festa delle donne, no, la tua. Non sei una donna. E posso malmenarti. No. Va bene. Non voglio dire che non siamo mai creato questa cosa. Comunque no, durante lo spettacolo non dirò niente, ma alla fine. Sentiamoci un pezzo di Iron Man, Robert Downey. Questo è ciò che mi terrà in vita nell'immediato futuro. Lo stavo sostituendo con un'unità più avanzata e mi sono imbattuto in un piccolo intoppo. Che genere di intoppo? Che vuol dire? Niente di grave, un piccolo imprevisto. C'è un filo elettrico scoperto qui sotto al mini reattore ed è entrato in contatto con la parete della cavità causando un lieve cortocircuito. Ecco. Cosa lo appoggi sul faccio? Tavolo, per favore, quello non è per che niente. Che impressione! Ora deve infilare la mano e con cautela prendere il filo e tirarlo fuori. È una cosa sicura? Sì, credo di sì. È come il piccolo chirurgo. Non deve toccare la parete della cavità, senti, altrimenti fa un bip. Che vuol dire il piccolo chirurgo? È solo un gioco, lasci perdere. Alzi il filo, okay. Delicatamente. Ok? Bene. Sono il riferimento all'infinito di prima. Questo era bellissimo, questo Robert Downey. Mi ha detto, mi stavi guardando gli occhi dicendo hai scelto lo stesso pezzo per uno dei stessi, sì, pezzi dello spettacolo. Sarà questo pezzo nello spettacolo, sì. Grande Angelo Maggi, lo vorrei come zio a pranzo la domenica. Certo, perché è così. Mi fa ridere. Basta cercare sul sito IMDb di cinema, c'è l'elenco di tutti i doppiatori. Carmen, sì sì, ma abbiamo anche il sito di Jenna, che è molto... l'enciclopedia dei doppiatori, insomma, ci sta. E poi c'è sempre sto Giuseppe Ciampi, ma secondo me sente delle puntate registrate di qualcun altro, perché non è la mia, non è la nostra, non si sa. Tutte le frutta, signor Milan, non pronunci i plurali che non esistono. Ma no, mi piace, perché ma scriverà 10 messaggi ogni volta, sta, non lo so, vabbè, non lo so, io forse gli instigherò questo, ma non siamo noi. Quanto manca per andare in pubblicità? 2 minuti, 1 minuto e mezzo. Anche questo è un personaggio a cui sei molto affezionato. Beh, insomma. Iron Man, che cosa vuoi? Certo, insomma, devo ringraziare Marco Guadagno, che mi ha proposto la prima volta per il primo film, anche lì senza fare provini. E insomma, ringraziando il cielo, insomma, è andata bene. Che sta andando. Lui pensa che Robert Downey era scomparso, cioè, beh, faceva piccoli grossi film, problemi personali. Sì. E poi è ritornato con Iron Man. Sì, ha avuto questo grande impatto. Ormai sono passati dal primo 8 anni, sì. E adesso stiamo per andare in sala con l'ultimo film della saga, che è Civil War, no? Però con Capitan America. Con Capitan America. Sì, è uno scontro tra loro, perché non si pigliano mai loro due. A me che fanno? Li dicono come Batman, Superman. Più o meno succederà questo. Tra l'altro io avrò... Non ne puoi manco parlare, lo sai che se questi film non se ne può parlare. No, non si può dire niente, esatto. Perché noi vediamo, ma lo sai, l'avrete raccontato, sì, che noi questi film li facciamo con un buco che fa vedere soltanto la bocca, e a volte manco tutta la bocca, sì. E noi non vediamo il resto della scena. Vi rendete conto? E a volte per un fatto di privacy e di, come si dice, di... Che poi fra un po' ci raggiungerà qui, anzi si è già raggiunto, il regista di un film che l'hanno un po' soprannominato il Marvel italiano, che è Gabriele Mainetti, ma il film è di più di quelli della Marvel, perché non è vorrei ma non posso, faccio l'americanata in italiano e non posso, no, è un grandissimo film italiano, girato con dei mezzi italiani, con degli attori italiani straordinari, anche doppiatore l'amico Claudio Santamaria, ma ne parliamo dopo. Lui è qui, Gabriele Mainetti, con il grande Gig Robot, che è meraviglioso davvero, guardate, un film bellissimo, sta andando anche molto bene, spero che vada ancora meglio. Allora, andiamo in pubblicità e torniamo con Angelo Maggi, e subito dopo con Gabriele Mainetti e l'amico Santamaria. Sanatomi. Eccoci di ritorno. Senti, c'è l'eroe Jethro Gibbs alla radio. Ah. Chi è? Chi è? È un altro personaggio a cui sono legatissimo ormai da 13 stagioni. 13. E nella, nello spettacolo ci sarà con Marina Tagliaferri, che starà in video, e faremo una cosa su NCIS. NCIS? Però non lo svelo. Insomma, penso che era è il protagonista di NCIS, e a cui lei chiederà di avere una frase d'amore. E io dico, ma Marina, in 13 stagioni questo non ha mai detto di amo a nessuna donna. Allora, perché è un uomo tutto d'un pezzo, non si è mai visto con una donna. E invece succederanno cose che non si sono mai viste in televisione. Questo, quanti parenti c'hai? Perché qua da 13 anni con questo di NCIS. 10 con il dottor Cox di Scrubs. Di Scrubs. 25 con Winchester. Sono longevo, sì. Diciamo, e fedele soprattutto. Dai, è bella questa cosa che si invecchia con loro. No? Questo sì. Non me lo ricordavo, però abbiamo uno Scrubs dannata, anche questo. Ah. Mettiamo uno Scrubs dannata, vai. Senti, Supergirl. Ti frantumerò in pezzettini così piccoli che nemmeno mia nonna, che riesce a fare dei puzzle di cielo azzurro da 1000 pezzi in meno di un'ora, riuscirà a rimetterli insieme, neanche lavorandoci sopra un anno intero, anche se dovesse tornare ai tempi di quando aveva una vista perfetta. E così ho fatto un pupazzo di paglia con le tue fattezze, gli ho messo addosso il mio camice con la tua circolare infilata nella tasca, e poi ho invitato tutti i bambini del vicinato a dargli fuoco e a prenderlo a bastonate. Ah beh, guardate che poi i nostri ascoltatori sono veramente attenti, fanno le domande più belle loro, io caccio via gli autori, risparmio. No, gli autori hanno fatto una scelta sulle clip mie fantastiche. Ma su tutto. Scrubs e Dr. Cox sono affezionatissimi a questo personaggio. Angelo Maggi, quando doppia, si affida di più agli occhi, all'intenzione vocale dell'attore, alla sua mimica o un giusto mix di questi tre elementi, dice Claudio? La terza risposta è quella esatta. Sì, però diciamo gli occhi sono lo specchio dell'anima, quindi la prima cosa è quella, ma insomma devi ascoltare tutto e essere diciamo sì, poi ovviamente tutto. La musicalità delle altre lingue è diversa, quello che fa hello, tu non fai ciao no, infatti molto il francese che un po' disturba questa cosa, perché quando doppio non so Henri Clouzet, l'attore di Quasi Amici e altri attori francesi, ti portano un pochettino a volte a seguirli dare... io a seguirli, a me mi capita di seguirli anche francesi. A me. Anche no, va bene, perché ma no. E giustamente Rodolfo Bianchi, direttori così, dice no Angelo. No, invece io sono d'accordo a mantenerla quella l'enfasi francese. No, ci sta invece, ci sta quello. Ma abbiamo parlato, sì. Ti ho detto esattamente che è andata così, però a volte, è andata così. Però potrebbe essere più vicino a un Veneto, capito, a volte. Andiamo come, capito? E quindi insomma... Ci ho mai pensato al Veneto. No, vabbè, è vero. Allora va bene, questo ti ho detto. Ma sentiamoci, hai portato anche un CD, hai portato tutto, c'hai un ufficio stampa straordinario. Sì, devo dire, c'è Elisabetta Castiglioni. Io non sono mai riuscito a trovare uno sponsor per il programma mio. No, questo, per lo spettacolo a teatro, perché in effetti il teatro, eccetera, tu hai trovato pure un bello spot, devo dire anche intonato. Non posso nominarlo. No, ma non. Perché parli di voce. Lo spettacolo comunque si chiama La voce, il doppiatore, La voce oltre il buio. Basta. Per cui non è che perché farmaceutico, no, ma ammazzano. No, cioè, ci fanno chiudere la trasmissione, perché vorrei che capissero lo scheretto. Sì, no, insomma, ho voluto fare le cose, diciamo. È carino, giuste. Ho fatto un bel programma di sala. Le pillole regalate? Perché io le uso poi. Sì, ci saranno in teatro. Benissimo, sì, allora tutti col fiato buono. E poi una colonna sonora, un come si dice, soundtrack dello spettacolo. Senti, ma un mini CD, senti, perché vuoi... sono 8 pezzi solamente. Che vuoi far sentire? Gli Aristogatti? Come vuoi. Sei tu? Che canti, sì. Romeo, Ermeio, Gatto del Coliseo. Dai. Che io doppierò dal vivo nello spettacolo. E arrivace qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che c'è sto, ma pure da emigrato. Mica so cambiato. Io sono Romeo, Ermeo. io del Colosseo, io fermo non ce sto, proprio non me va. Se domani qui sarò, canta insieme a te, Angelo. Chi lo sa, forse un po' m'acchitterò e me ne andrò in città. E già. E poi laggiù tanta scena farò, che ogni gatta che me vedrà dirà: ma che bel gattone, ma che bel micione, che simpaticone, quello è Romeo, è il meglio del Colosseo. È bello, eh? Mi riporti indietro, Madonna. C'avamo già inizio di prostatite quando è uscito sto film, pensa, ne eravamo manco già tanto piccoli. Che bello, che poi la voce originale era Renzo Montagnani, che romano non era, non seccava niente, eppure l'ha fatto io, benissimo. Io, diciamo, in pubblico sono il primo romano che l'ha fatto. Sì, esatto, perché un altro pezzo, c'è anche la... Mary Poppins. Mary Poppins, che fai di Mary Poppins? Sentila. Mettiamo Mary Poppins, basta che non m'entri con... Guarda che splendido dì, con l'ombrellino. La primavera è già qui. Già ti vedo. Lassù, ah, vorrei volar. Via Bert, niente pazzie, per favore. Magico è l'odor dei prati in fior, tutto azzurro è il cielo. Dio. Oh, come bello passeggiar con Mary. Senti che voce leggera. Non sei cambiato affatto. Oreste Lionello, un giorno dei più neri, Mary il sole fa. Queste le canti dal vivo, lo spettacolo? Andiamo. È tanto bello passeggiarle, sì, accanto, che non puoi fare a meno di cantar. Se Mary è accanto a te. Non ti conoscevo sotto questa forma di cantante. Molti, amico, ma soprattutto negli ultimi 15-20 anni sono andato sempre un po' più verso quel lato lì, di fare spettacoli un po' che spaziano dalla poesia al teatro. Siamo già arrivati alla fine, oh, siamo già arrivati in 2 minuti. Abbiamo detto abbastanza, ma tanto ci sarà. C'è la valigia dell'attore, che io amo quella canzone. È una canzone Francesco che io sento molto, che lui ha scritto per Haber, e io l'ho sentita molto mia per tutta la vita. Io credo che questa, se vuoi ascoltare qualcosa, un pezzettino me la metti, sì, sotto mentre saluto. È il numero 2 della traccia del doppiatore. Mentre noi ci salutiamo e ricordiamo gli appuntamenti. Ma che bella, è una cosa pazzesca questa canzone. E allora io vi ricordo, sì, Angelo Maggi nel doppiatore, io sarò lì perché non voglio perdermi il momento di Iron Man. E il Teatro Belli di Roma è praticamente in piazza Santa Apollonia. Sì, Santa Maria in Trastevere. Santa Maria in Trastevere, insomma, parcheggiate fuori, tranquilli. Per tempo, perché capito, purtroppo non ci sono i posti numerati in questo teatro, poi non già io e lì. Ma siete bene dappertutto, sono 200 posti, sì, circa. No, che 160. E allora, si vede bene dappertutto, sì, tranquilli. Ci vediamo l'8 marzo. Martedì sera alla festa delle donne. La festeggiamo in maniera diversa. Portate la vostra donna a sentire le voci meravigliose di questo cinema che ci fa tanto sognare. Io ti ringrazio, caro, grazie, Angelo, Vino, davvero, grazie a te. Di cuore a te. E in bocca alla al lupo amicizia per questa bella trasmissione Voice Anatomy, che va verso quello a cui punta anche il mio spettacolo, quello di dare visibilità ai doppiatori, al doppiaggio italiano, che è un'arte importante che bisogna comunque sempre far esaltare. Da voce alla voce, questa trasmissione è la voce, la cosa più importante del mondo. Sacrosanto. La forma più evocativa che io conosca. Non grazie esistono a nome di questo mondo del doppiaggio. Grazie a te, amico mio. Tra poco, all'8 marzo, e poi ci risentiamo per questa trasmissione. Ciao a tutti. Restate con noi. Voice Anatomy continuerà dopo questa pausa leggermente più lunga con il nostro amico Gabriele Mainetti per parlare di questo bellissimo film insieme a Claudio Santamaria. A tra poco con Voice Anatomy. Tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio. Eccoci qua, siamo venuti per poco, perché per poco si va.

Il tempo passa per tutti, porca miseria, sta dicendo. Non ho detto miseria. No, no, non lo so, se può dire pure magari qualche parola accetta quando è giustificata. Mi sta mandando i link delle sue cose, sì, dei suoi cortometraggi che non ho visto, assolutamente devo vederli, ma quello che ho visto lo chiamavano Gigrobo e sono rimasto veramente affascinato al primo giorno del trailer e poi ho letto dopo il tuo nome. Questa è la cosa bella. Ah, ho detto, questa è figa. Sì, non l'ho guardato all'occhio benevolo di un amico, di un pseudo zio che vede crescere il proprio amico di quartiere o parente, eccetera. No, ho visto e dico, ma vedi che bello, che botta. Che ho visto. Poi sono andato su Ivid, eccetera, a vedere tutti gli altri trailer che c'erano. È stata emozionante, ma emozionante la scelta musicale, cioè di rifare. Poi con sei sempre il compositore tu insieme a Michele Braga. Insieme a Michele Braga della colonna sonora del film, ma c'è la versione lounge, credo, cioè non voglio chiamare ballad. Ma ballad, scusami. Ballad è giusta. Una ballad di Gigrobo d'acciaio e ce l'abbiamo, abbiamo scaricata, vero? Scaricata pagando, No. È fondamentale. No, scaricata rubata. No, che rubata. Sicuramente già. No, guarda là che fanno dalla regia. Ma che sa matta. No. Comprata dalle piattaforme dalle digitali. Dalle piattaforme digitali, vai. Cantata di Claudio Santamaria. Sì, bravissimo. Sì, corri ragazzo laggiù. Non lo dimentichiamo anche con un Rino Gaetano perfetto. Ma è pazzesco. Sentitela che bella, già è così il film. Corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Corri e va. Bellissima. Per la terra vola e va tra le stelle. Tu che puoi diventare Jigba, cuore acciaio, Jigba, bellissimo. Cuore acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Se dalla terra nasce. Ma che bella è! È bellissima, ha una voce pazzesca. È un cantante. Guarda che leva Claudio che ci sta. Sì, sì. Ma l'arrangiamento sotto, tu mi insegni che l'arrangiamento è fondamentale. Questo arrangiamento lunare è bellissima. Sì, sta chitarra country persa nei crossroad americani. No, è stata una bella cosa. Perché pensa che alle 2 di notte, mentre stavamo girando, mi arriva questo messaggio su WhatsApp audio. Io lo apro e c'è Claudio che mi canta il pezzo. Lui già aveva in mente chi ha avuto l'idea di farlo così? Lui, assolutamente lui. No, ma lui me l'ha mandata così per scherzare. Io ho detto, sì, l'ho chiamato. Perché cantata così lenta ti fa ridere come idea. Invece non fa ridere. No. E io l'ho chiamato e gli ho detto, Claudio, ma questa adesso la mettiamo nei titoli di coda. E lui mi ha detto, ma che sei pazzo? Ma sì. Invece sì, l'arrangiamo bene, grazie a Michele Braga è venuto fuori questa cosa così bella, veramente è esattamente lo sguardo finale del film. Sì, è quello che insisteva tanto, sì, pure Michele diceva, è proprio racchiude quello che racconta proprio il film. Guarda, voi andate a vederlo assolutamente, perché non è soltanto perché si dice sempre il cinema italiano, aiutiamo, sembriamo dei poveracci che chiedono l'elemosina. La cosa che mi piace è soprattutto che io, insomma, invito le persone ad andare semplicemente perché comunque secondo me è un bel film ed è un film che avrei voluto vedere, non perché è un film coraggioso e si lancia in un'impresa di per sé già nuova, perché molte persone hanno applaudito soltanto per il coraggio, ma col coraggio ci fa poco. Esistono bei film e brutti film, esatto, come me. La comicità, che poi sta a voi dire no. Se è bello, esatto, ferito o non ferito, esatto. Quindi sta a voi dire se è bello. Molte critiche dicono che è bello. Poi se vuoi racconto brevissimamente. Sì, il film, dai, che poi chiamiamo la storia del delinquente della periferia romana che scappa da due poliziotti che lo inseguono al centro di Roma perché lui ha rubato un Rolex e si nasconde su una chiatta sul Tevere. Quando questi fanno per entrare, lui in un altro posto che dove nascondersi, che nell'acqua del Tevere. Quando se ne vanno, fa leva su qualche cosa di duro che si rompe ed è un barile con del liquido radioattivo che lui accidentalmente ingerisce e poi rivomita per tipo 8 ore e poi dopo 10 minuti di film scopre di avere una forza sovrumana. La dirimpettaia che vive, insomma, in un mondo cartonato dove popolato dai personaggi di Gig Robot d'acciaio, perché lei evade dalla realtà per tutta una serie di difficoltà vissute nella vita, quando scopre che quello che abita vicino a casa sua ha dei superpoteri, non può che non essere Hiroshi Shiba che si trasforma in Gig e gli fa da grillo parlante. Il tutto viene minacciato da un delinquentucolo, anzi da un delinquente vero, interpretato magistralmente, bravissimo, secondo me, da Luca Marinelli, bravissimo, che si ispira alle icone pop femminili anni 80, sì, è vero, perché lui nel suo passato da ragazzina aveva tentato la carriera da interprete canoro, ma non c'era riuscito e si è portato dietro questo bisogno narcisistico di essere in qualche modo amato da tutti. Sembra, e quindi, anche Iggy Pop a un certo punto. Sì, e lui vuole essere un criminale famoso, e questa cosa fa ridere da morire, perché un criminale non può essere famoso, perché se fa anche paura, non è fa molta paura, è pazzo paura, completo. Sì. Ed è la nemesi totale di quello che è Enzo, perché Enzo vuole nascondersi, non vuole più niente da nessuno perché la vita gli ha tolto tanto, e quindi se ha qualcosa ha paura di perderla. E però diventa famoso perché sradica un banco, ma le visualizzazioni su YouTube arrivano a 40 milioni. Quell'altro invece fa di tutto perché invece venga riconosciuto. È come se il social non gli riconosce un valore, è come se non esistesse. È molto interessante questa dialettica. Però, c'è questa guerra che va avanti. C'è questa guerra che va avanti, però è anche soprattutto una grande storia d'amore. Il è film, bellissima, di sfondo. Che è la cosa più importante. Sì, che poi non è di sfondo, è una storia che muove tutto. Muove tutto. La donna è il cardine attorno al quale gira Teresa, il film. Ilenia Pastorelli, che non ha mai recitato. Non ha il nome nel film. Alessia. Ah, è come Alessia. È come la nostra capo progetto Alessia Navarro della... Lei non ha mai recitato? L'hai presa? Mai. No, lei è così. Uno dei due sceneggiatori mi ha detto: senti, lo sai che per una delle battute ci siamo ispirati ad Ilenia Pastorelli? Ho fatto: ma chi è? Chi cazzo? Cioè, una che ha fatto Grande Fratello. No, te prego, io non voglio lavorare con quelli che hanno... Cioè, che facciamo? Proprio la classica cosa che prendiamo il personaggio del talent show. Invece questa è venuta dopo che io avevo propinato 30 attrici importanti che avevano l'età giusta per il personaggio e mi ha stregato. Aveva quel vissuto e quel talento. Se tu hai accettato... Poi abbiamo lavorato 4-5 mesi. Sì, non è stata una raccomandazione, non è stato un aperto film, te lo fai No. Santa Maria Coattone, che grugna più di parlare, è eccezionale. Un messaggio. Da grande appassionato di cartoni giapponesi vi dico che il film non c'entra niente, è stupendo. È stupendo. Grazie. Tutto, la sceneggiatura, regia, recitazione e musica. Grazie. Grazie ancora, grazie, ho visto te. Il film, è straordinario, lo sto dicendo a tutti i miei amici. Ciao Pino, complimenti a Gabriele Mainetti che con passione e coraggio ha saputo dimostrare che i film d'azione supereroistici si possono realizzare anche in Italia. Meritatissimo tutto il successo avuto, un plauso anche a Claudio Santamaria, bravissimo attore, doppiatore, egregio nel Batman di Nolan. Non glielo dite a Santamaria, che siete pazzi. A proposito, l'abbiamo trovato Santamaria al prossimo blocco, sta con noi? Fra tre minuti andiamo in pubblicità e poi ci abbiamo Santamaria? Che poi è un'evocazione, sembra più un ringraziamento ai cieli ogni volta che chiamiamo Santa Maria. Poi un giorno glielo dirò, gliela strappiamo la promessa di venire qui una volta, no? Sembra gli stiamo antipatici, solo per telefono. È stato in vacanza un po', giustamente. Non si è fermato un attimo. No, perché finito il film. Poi quante durate le riprese del film? 8 settimane e qualcosa, sì, 8 settimane, 2 giorni, 3 giorni. Poi abbiamo fatto delle integrazioni con una troupe ridotta che in realtà eravamo io e il direttore della fotografia e basta. Però sì, insomma, è stato un lusso perché solitamente si gira molto di meno. Però sai, producendo io non ho rubato nulla. Esatto. Quindi il film era ricchissimo. No, sì, non, insomma, il fee dell'esecutivo è stato reinvestito nel film e io non mi sono pagato. C'è questo minimo comune multiplo delle canzoni, a mi viene in mente un'emozione da poco cantato da Luca. Da Luca Marinelli. Che poi purtroppo per un errore non è stata inserita nella colonna sonora. E adesso rimedieremo quanto prima, lo metteremo online che si può scaricare, perché pure quella è un'interpretazione perché pazzesca. Uno magari pensa che non ci sono stati problemi di diritti. No, tutto pagato. Gli editoriali sono tutti pagati. Però ecco, insomma, lui lì è veramente strepitoso. Gig Robot di chi è? Quella originale italiana? Cioè, perché normalmente certe musiche giapponesi sono giapponesi, poi non le cambiamo. No. O certe volte mettiamo solo le parole. La parte strumentale chiaramente è quella giapponese. È quella originale. Sì. Poi dopo noi ci abbiamo messo. Però devo se, mi sa che il testo, non vorrei dire una castroneria, però il testo è diverso, non è proprio così. Cioè, la traduzione. versione in giapponese dice altre cose. Che balla capì. Sì, appunto. Però comunque l'abbiamo dovuto ricantare perché non avevamo i diritti di master, cioè non avevamo il master, e quindi l'abbiamo, e l'ha ricantata pure quella che canta con quella voce, l'ha ricantata Santa Maria. Corri ragazzo, la cellula. Sì. No, ma infatti lui si diverte. Sì, sì, a utilizzare imita, la voce. Imita benissimo, lui è un grande imitatore. Ma no, no, è proprio un imitatore. Ma io facciamo fa, e facciamo fa qualsiasi mica cosa. Mica va bene gratis ogni volta e basta, santo Dio. Adesso ti voglio che ti imiti, perché sono sicuro sì, che no, dobbiamo farlo solo. Forse non ce la fa, perché tu hai delle basse frequenze un po' difficili da riprodurre, però. Da, magari mi imitassi, vuol dire che c'è una caratteristica, santa miseria. Senti, andiamo in pubblicità 20 secondi prima e li rubiamo dopo? E chiamiamo Claudio subito? Vai, vai, vai! Voice Anatomy. Eccoci! Fatico a trovare un difetto a questo film. Perfetto, bravissimi tutti. Lo sto consigliando a tutti quelli che posso. Un film che solo dei bravi italiani possono concepire, altro che americanate, Annalisa. Bene, e abbiamo Santa Maria in collegamento, tanto per cambiare telefonico. Eccoci. A Claudio, ciao. Però senti, ciao tesoro, lo capisco. Ciao, le fatiche. Ciao Gabri. Quando torni a Roma, in Italia, quando ti fermi? No, guarda, sto all'altezza di Barberino del Mugello. Capirà che andrà la linea fra due secondi allora. Tratto no, ho appenninico. Ho passato tutte le gallerie, no, l'ho appena superato. Infatti, tac, piove adesso da quest'altra parte. Vabbè, un minimo di qualcosa. Dai, dai, che se piove le persone vanno al cinema. Esatto. Esatto. Ormai noi pensiamo sempre così, fa meglio che la televisione. Così dai, sta piove, la gente sta davanti al televisore, dai, piove, la gente va al cinema. Certo. Devo andarci, perché un film, guarda, stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, ma poi è veramente parla da solo. Non lo sapevo che eri tu che hai cantato la canzone finale. Sì, dai, una sera tornai. Ma ha detto com'è andata? Gliel'hai spedita per gioco? Sì, ho raccontato tutto, Claudio. Fighissimo. Senti, invece mi ha detto una cosa che non sapevo di te, Santa Maria. Scusa se ti chiamo Santa Maria. Sembra strano, perché poi quando ci vediamo non mi chiami Santa non Maria. Ti chiamo Santa Maria, no, mi piace. È un'esclamazione. Chiamami Santa. Santino. Chiamami Santa. Senti, Claudino, so che sei un imitatore, mi sta a dire Gabriele, ma ha giurato che riuscivi a farti fare un'imitazione che io non so. Vabbè. Mentre guidi, sta attento però. No. Pino, lo riesci a fare, Pino? No, ma che me fa a me? No, è difficile. Cosa sta a fare? Ci devo lavorare. E invece tu c'hai un bel vocione, per cui... Aspetta, ti faccio sentire un pezzo. Prima c'è stato Angelo Maggi qui ospite come doppiatore e attore in trasmissione e ci abbiamo un pezzo Fatalità di Batman, che siete te e lui che parlate. Dura 26 secondi, ascoltiamoli. Eccoli. Non mi è mai importato sapere chi fossi. E hai fatto bene. Ma Gotham dovrebbe conoscere l'eroe che l'ha salvata dalla morte. Chiunque può essere un eroe, anche un uomo che fa una cosa semplice e rassicurante come mettere un cappotto sulle spalle di un bambino per fargli capire che il mondo non è finito. Dai. Anch'io c'ho freddo, Cla. Metti il cappotto. Grande, questo, bello questo quel momento. Lo potrei imitare volendo. È quello sì, se dovessi riuscire adesso, non so se proprio ci riesci adesso mentre sei in macchina a Barberino nel Mugello. Arrivano tantissimi altri messaggi. Aggiungo, aspetta, Gabriele, sono in un tunnel, ve lo dico. ne uscirai, ti faremo uscire da lì. Cristo santo, ti porteremo fuori. Gabriele, quali difficoltà maggiori hai incontrato nella realizzazione di questo meraviglioso film? Nel mondo del cinema hai avvertito pregiudizio o comunque molti dubbi sulla scelta di questo genere? E per te qual è e quali sono i generi ai quali questo film appartiene? Grazie in anticipo, Claudio. Questa che domanda. Ma super domande. No, questo domande. La gente domande. Di Radio 24 è, non so, sono persone tridimensionali. Vabbè, velocissimamente. I generi sono, chiaramente, c'è il gangster movie, che è quello tipico, no? Che sta andando molto per la maggiore. Della mala romana, una storia d'amore e il genere supereroistico, tutto commistionato, insomma, nella speranza che comunque poi trovi la sua armonia. Le difficoltà erano enormi, tant'è che io quando nel 2010 avevo questo soggetto ho cercato disperatamente di sensibilizzare un produttore per realizzarlo, ma non è stato così. Quindi l'unica soluzione, visto che avevo realizzato come produttore i cortometraggi che avevo fatto in precedenza, ho detto vabbè, proviamo a produrlo da soli. c'è stata Rai Cinema che ci ha dato lo sviluppo per la sceneggiatura, e da lì è partita tutta quanta l'avventura, insomma, che... E Santa Maria è stata la tua prima scelta, immagino, no? No. Ma dai! No, no, non che non è stata la mia prima scelta. Beh, volevi, magari, e tu pensavi che fosse disponibile. No, Claudio ha fatto un provino. Non è che gli ha dato buca qualcuno. Adesso scopriamo. No, okay, queste sono le cattiverie che... No. Claudio ha letto la sceneggiatura... Se io gli avessi dato buca, avrebbe scelto qualcun altro. Esatto, Claudio. Super Claudio, vedi com'è la cosa. Ecco. No, Claudio ha fatto un provino e... Però... Tre non fatti. Sì, vabbè, insomma. Tre non fatti. Due. Però, ragazzi, io sfido chiunque a riconoscere Claudio, cioè o paragonare quello che ha fatto Claudio in questo film. Ma anche vocalmente, te l'ho detto all'inizio. È cambiato completamente, così, sì. Perché non volevo... Sai cos'è? Quando uno prova a fare qualche cosa di nuovo, non c'è cosa peggiore di prendere un attore che... A parte, vabbè, sì, Claudio di per sé è un trasformista, non è uno di quei classici attori, no, che fa sempre la solita cosa, però ecco, quello è l'errore nel quale uno può incorrere. Vuoi fare qualcosa di nuovo, prendi quell'attore che fa sempre quella cosa lì, ti cannibalizza il prodotto. Quindi volevo che Claudio avesse la possibilità di dare tanto del suo, ma di essere completamente nuovo. Ma una cosa nuovo. Bella di Claudio, ne parliamo. Tant'è visto che non è una piotta nel film. Ma sì, è vero che sei aumentato, hai fatto come De Niro nel Toro Scatenato, 20 kg hai preso. Sì, lui ne ha presi 30. Sì, ma è stato faticoso? Hai dovuto mangiare pizza o solo patate? Come hai fatto? No, di tutto quello che non si muove, come diceva il mio allenatore. Di mangiare tutto, ma veramente mangiavo anche due etti e mezzo di pasta la sera con la carne, il secondo. Ma sei stato seguito, ovviamente, certo. Non ti viene una botta di... Da botte di colesterolo, sì. Dici, ha finito il film, ma ha finito tutto adesso. Lo so, però mi allenavo pure, andavo in palestra, sì, perché... stavo 100 kg di panca piana, 3 mesi. Pure di più alzavi, Claudio. Sì, 110, sì. No, con la barra, insomma, però insomma, non in te poco sei... tempo, ammazza. Poi, diciamo, una risposta bestia. Muscolare... E adesso sei tornato come americani? Come americani sei tornato indietro? Un figurino. Pesa 78, 80, quanto pesi adesso? No, 80. È come quando vedi attori americani bellissimi nel film, e poi incontri che la panza fanno il contrario. No, lui sta una bomba adesso. Ma no, diciamo, a proposito di Claudio, è vero, non riesci a, ringraziando il cielo, a inserirlo in un particolare personaggio, eccetera. Lui passa veramente poliedrico. Dal dandy, dal coatto di un certo tipo, al cantante elegante, all'attore, ma veramente poliedrico in tutto questo. Sì, questo sì. Non dovremmo dirlo in sua presenza, però. Però ecco, forse la caratteristica tipica di... È tornata la linea. Esatto, scusa. Forse la caratteristica, cioè quello che non volevo, siccome Claudio ha una bellezza e una grazia, secondo me, anche recitativa, molto importante, io volevo che questa cosa si trasformasse. Ecco perché l'ho portato ad essere proprio un orso. Che così invece non è mai stato visto, giusto? No. Sei convinto, Gradi, quello che dico? Oppure me l'appoggi? Ma non dico convinto, dove. Non sarei qui, non avrei fatto il film, insomma, certo che ne sono convinto. Comunque, devo dire che forse è uno dei film in cui mi vedo più diverso in assoluto. Ci sono altri film in cui ho fatto un lavoro comunque che sta da un'altra parte, però questo in particolare è la prima volta che mi sono rivisto, ho avuto quasi uno shock, perché ma chi è quello? Sì, ma guarda, veramente, io te lo dico, veramente sono rimasto... Mi è piaciuto molto il lavoro vocale che hai fatto là sopra, mica per far tecnico. Grazie. Perché facciamo Voice Anatomy, ma mi è piaciuto veramente tanto. Grazie. Raccontagli che il lavoro. Che lavoro, che lavoro hai fatto là sopra? Ti sei messo... Tu c'hai una voce, guarda, importante, però l'hai resa naturale, attento, l'hai resa molto naturale quel vocione lì. Perché non sono partito dalla voce, ma più da un, come dire, da una qualità emotiva del personaggio, forma mentis del personaggio, Te sto a perdere. Ti dovresti fermare, ma non sotto un tunnel. Mi raccomando. Vabbè, magari continuo io per lui, nel le senso due che lui... dimmi. No, lui stava cercando... Io gli ho detto, guarda, innanzitutto in periferia, soprattutto dei personaggi che, come quello che devi interpretare, non hanno quella... Cioè, le finali non è che le devono chiudere, le devono proprio serrare. Non devi lasciare tutto quanto sospeso... come a Roma Nord, no? Sì. Okay, mi dai il panino, capito? Che rimane un po' panino, così, capito? Sì. Molto muccino quello, che lui dammelo. Pronti? Ecco, fermati, eccomi. Fermati che sennò... No, ma che fermo? fermo, mi fermo in mezzo all'autostrada. Sì, no, sì. Guarda, buono, perdiamo il Foro Santa Maria. Non mi piace leggerlo sul giornale in un altro modo, te prego. È vero che il film avrebbe un successo straordinario, ma insomma non mi sembra giusto. Senti, insomma, stavamo dicendo di questo studio che hai fatto anche sui personaggi, non di Roma Nord, come stava raccontando Gabriele, che allungano le vocali finali, ma invece quella Roma che chiude e serra le finali. Ma questo vi ha creato qualche problema per il resto d'Italia, o secondo voi, oppure no? Ma sai, Sordi è apprezzato in tutta Italia, Gabriele. È quello che... guarda, hai fatto proprio l'esempio... guarda, io dico sempre, sai quando nelle distribuzioni, però anche gli esercenti, però sai che è in romano, purtroppo c'è una resistenza di qua, di su e di giù. Faccio, io ma capisco. Resistenza perché? Però, scusa, il Marchese del Grillo, i soliti ignoti, poveri ma belli, come parlavano questi? Che dialetto era? Era romano, tra l'altro è il dialetto più comprensibile. No, devo dire che c'è un pochino più di fatica nel nord, nella provincia del nord, perché Milano invece lo sta apprezzando tantissimo. Certo. E questo ma piano piano, secondo me, conquisteremo che anche loro. A Troisi, alla visione privata di Ricomincio da Tre, lo incolparono, lo additarono, addirittura gli dissero, quel giorno me lo raccontò Massimo Troisi, gli dissero non si capisce niente, le inquadrature fisse, ha voluto fare regia, tocca metti i sottotitoli a sto film, il resto è storia. Il dialetto è un'identità, non esiste una persona, quando poi che, sì, l'italiano, poi capirai, qui stiamo alla voce, però difficilmente si parla in italiano corretto, me lo puoi confermare. Certo, anche ma assolutamente, quindi, ma chi uno deve mantenerla la propria vocalità. Poi parliamo della delinquenza, io non è che se parlano appunto come un doppiatore, sì. Delinquente, no, dei necessari. Senti Claudio, ma Emma tua figlia ti ha visto come un supereroe, che effetto l'ha fatto? Quanti anni ha Emma adesso? 7, 8 anni? Quanti anni ha? 8 e mezzo, no, ma non ha visto il film, non l'ha visto. Anzi, lo dico a tutti, perché forse il film va bene sopra i 12 anni, ecco, sì, me. C'è qualcosa, no? 12, ma che sta di 10, dai, 10, 11, insomma, 12, per i maschi, 13. Diciamo, i maschi 10, 11, le femmine 12, ma guarda che secondo me 8, se i maschi 11 e femmine anche 8, sono d'accordo con Pino, guarda che noi stiamo dietro, io studio il cervello, ma insegno, le bambine si impressionano molto di meno perché ma sono a contatto con le emozioni molto prima di noi, Claudio, quindi le donne hanno l'emisfero destro e quello sinistro collegati, noi no, abbiamo solo quello razionale, il resto lo sai come va. Ma sai, in Italia il problema della censura è grave, perché comunque si sta sotto i 14 e basta, e se stai sotto i 14 tu non puoi neanche fare la pubblicità in televisione, è drammatica questa cosa. Invece ci sono dei sistemi molto più rigidi in altri paesi, che hai, che ne so, 10 anni accompagnati dai genitori, 12-14, questo è un film, secondo io, vabbè, vedevo Fenomena e L'Esorcista a 8 anni, esatto, e Venerdì 13, a 13 anni non ho più dormito, vabbè, io da ho solo. Visto prima dei 13 anni sì. Mi dicono proprio qui, non esce il CD con le musiche del film? Sì, sono stupende, sì. Sta uscendo? È uscito. Il CD proprio fisico, volete? Non ho capito, perché su tutte le piattaforme digitali, da iTunes, Spotify, Deezer, io addirittura il vinile voglio, penso. Il vinile esce. Sì, dai. E nel vinile ci sarà la versione un'emozione da poco. E poi qui dice: il film è bello davvero, non approvavo la presenza dei bambini in sala, come mai non l'avete vietato il 2014? No, perché 14 è troppo, non ha senso. Guarda, posso dire una cosa, se non è stato vietato Suburra e non è stato vietato Deadpool, che all'inizio ci stanno c'è una macchina che proprio rotola su se stessa e le persone si schiacciano per terra e poi finiscono, sai, sulle insegne della strada spappolandosi, non vedo perché comunque il mio debba essere votato, che in realtà c'è anche, diciamo, un messaggio c'è un pochino telefonata? Più importante, cioè di non fare il delinquente. C'è una telefonata, Luca da Roma, credo voglia chiedere qualcosa a Gabriele. Sì, prego, o a Claudio, prego. Pronto, ciao, buon pomeriggio a tutti. Grazie. Un po' ciao, Luca. Sola, spero si riesca a capire cosa dico. Sì, vai. Vai, Luca. Volevo chiedere se nella lavorazione del film, riguardo gli effetti speciali, ci sono stati vari problemi, o come si è rapportato con la lavorazione. Ma guarda, gli effetti speciali intendi i visual effects, quelli fatti dopo o quelli sul set? Ma guarda, deve essere per evitare che ci siano problemi, sostanzialmente tu devi prevedere tutto, previsualizzare, dicono gli americani, quindi deve esserci un filo rosso tra la pre-produzione, la produzione e la post-produzione, perché se l'effetto speciale, o il VFX per essere più precisi, entra come diciamo risolutore del problema, allora lì c'è un lì è un casino, perché non puoi far mettere nelle mani di un attore che non ha mimato l'interazione con l'oggetto un oggetto, si sente che è incollato. Quindi devo dire che tutto quello che era stato previsualizzato è risultato molto, è risultato un successo. Ci sono stati altri problemi che purtroppo per quanto riguarda la messa in scena di stunt, effetti speciali di scoppio e cose sul set, sono venute alcune, ma non tutte, alcune sono state un pochino difficili, sai, la sicurezza comporta sempre, no, dei limiti, e allora lì i UFX hanno dovuto intervenire, abbiamo lavorato tanto, ma poi se tu il film l'hai visto, mi sembra che comunque possiamo ritenerci soddisfatti. Assolutamente sì. Allora, assolutamente. Grazie Luca della tua chiamata, rimanete con noi un minuto soltanto di pubblicità per l'ultimo blocco insieme. Claudio, ci sei sempre con noi? Sono sempre qui. Ok, altri 5-6 minuti insieme. Grazie, a tra pochissimo. Voice Anatomy. Claudio, c'hai anche l'aggiornamento in diretta delle strade, ma per cui guarda, sta tranquillo. Senti, mi arriva, fra le tante domande, poi ne scelgo sempre qualcuna, magari sono tutte molto belle e giuste. Domanda per Claudio Santamaria: Batman e il protagonista di questo film potrebbero essere considerati entrambi antieroe? L'esperienza del doppiaggio di Christian Bale ti è tornata utile in qualche modo? Grazie in anticipo, Claudio dice. Beh, grazie per la domanda. Beh, no, oddio, il doppiaggio di Christian Bale... No, come utilità in questo senso devo dire... No, infatti, no, anche secondo me. Era un lavoro totalmente diverso, però hanno qualcosa in comune. Beh, se paragoniamo i due film, un po' il personaggio di Enzo e il personaggio dello Zingaro sono un po'... No, uno è la parte oscura, nero, il colore di Enzo è nero, grigio, la parte dello Zingaro è il colore, il viola, certo. E così come appunto Batman e Joker sono due personaggi, uno che è proprio... come dire, figlio delle tenebre, un altro che è la follia, il colore, un po' hanno delle assonanze con quei due personaggi là, sicuramente. Com'è la voce di Enzo Ceccotti? Com'è la voce? Ci riesci ancora a rifarla? Ma che te devo dire, mi sono scordato. È bello un eroe così, ma guarda che io sono stato, stavo raccontando a Gabriele quando ho visto il primo trailer del film, non sapevo che era Gabriele, non sapevo che c'eri tu, se no uno ci mette dentro amicizie, stime, e ho visto questa cosa, è stata una botta veramente, vedi che cosa abbiamo fatto, ho detto, perché poi uno si sente, no, il successo c'ha tanti padri, l'insuccesso è orfano, mi sono sentito parte integrante di un'operazione italiana importante, questo, sì, ma guarda che stavo proprio con te, poi hanno letto il nome di Gabriele, poi il tuo, per carità, Gabriele, sto dicendo prima, l'ho visto veramente crescere, sono veramente contento, felice che lui sta realizzando tutti i suoi sogni e succederà qualcosa di più, sono sicuro. Speriamo. Perché uno che comincia così non può che continuare meglio. Quello, mi sto un po' facendo nelle mutande quella cosa lì, insomma, uno deve essere, no? Perché devi avercela sempre paura, tutte le persone importanti, se uno sa nuotare bene, non è che affronta il mare con coraggio perché so nuotare bene, ha sempre rispetto del mare. Io, chiunque entri in sala, oppure Claudio stesso, ogni volta che ricomincia un film alla prima posa non dice io sono Claudio Santamaria, ho fatto tante cose belle, rientra sempre con quell'umiltà. Cioè, adesso che è un momento, diciamo, abbastanza felice per poter realizzare qualcosa di nuovo, mi dicono tutti ricordati che il secondo film è quello più difficile, come diceva Troisi, ricomincio da tre, sì, infatti, perché pure, dice tu dici, ma senti, io voglio semplicemente fare un ma film con l'entusiasmo, quel non finale. Lo so, forse sì, chi lo sa, quel finale lì lascia presupporre quello sguardo. Adesso vediamo, ci stiamo pensando, ne parleremo lunedì con tutta la squadra degli sceneggiatori, anche se in effetti perché una serie no. Io farei una serie di Gigolo e farei un altro film. Questo come idea. Vediamo che succede. Perché secondo me finalmente possiamo esportare qualcosa di diverso. Io sono un amante del cinema in assoluto. Le serie televisive. Ma la serie adesso fatta hanno... a cinema, tu lo sai meglio di me che adesso le serie. Sì, no, guarda, ma non ci guarda, lo sai una cosa, voglio essere un provocatore. Non ce ne sono tante di serie fatte a cinema. Cioè, ce ne sono, ma non ce ne sono tantissime. Ma che ne so, Fargo, Game of Thrones, o anche, che ne so, grandissimo Breaking Bad. Sì, però alcuni, però ce ne sono insieme a queste ti arrivano 660 pacchetti. Però Fringe, ecco, Fringe secondo me non è fatta a cinema, è molto cioè quell'episodio verticale che si chiude, che un po' mi annoia. Preferisco un film. Preferisco vedere J.J. Abrams che i suoi prodotti televisivi. Però a parte Lost, mi piace l'idea di vedere il seguito che continui su una, che serie, continui televisiva. Su una serie televisiva. Ti vogliono bene Enzo Ceccotti, vogliono che permani, capito? Il caso mai lo doppio io. Vabbè, poi ci mettiamo d'accordo, non è problema. Esatto, perché sì, Claudio, se no, dicevo di farlo in Veneto allora. Il prossimo. Sì, e se adesso visto che il film un po' al nord, insomma, quella zona lì, sai, ci vanno, ma ha bisogno di più passa, però io mi era venuto in mente di doppiare un trailer in Veneto. Esatto, e se giro corri, canta un po', ragazzo. Corri, corri ragazzo, laggiù, dai, vola tra lampi di blu. E corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Ecco, dai. Adesso se siamo persi pure il Veneto. Ma il Veneto. No, ma mica è una presa in giro, ma lo sanno. Guarda, il Triveneto e il nord-est italiano. Vabbè, è la parte, il ragazzo di Padova è la parte più brillante che c'è in Italia. No, lo dico urlandolo. Vengo dal Veneto, vado nei ristoranti e mi dicono: oh, cos'è che vuoi mangiare? Dai. a me mi dicono: ehi, laziale, pure lì lo sanno. Penso un po'. Ma ieri un ragazzo di Padova mi ha scritto, mi ha detto di quanto gli è piaciuto il film e che era andato a vederlo per la seconda volta. No, quindi, no, ma insomma, il film sarà passato. Secondo me, fate il seguito e una serie, dicono anche. State, ragazzi, riportando i giovani nel cinema, bravi. Ho appena ordinato il CD in un negozio in cui stamattina mi avevano detto che non era ancora uscito, dicendo che Radio 24, il regista, rispondendo a un mio SMS, aveva detto che è già uscito. Ma questo ha litigato. Ah, mi dispiace, no? Io a casa c'ho un'ottantina dei CD, quindi comunque. Se ce l'ho io, ce le dovrebbero avere pure i negozi. Comunque adesso provvederemo. Quello sicuramente tanto esce. Certo, li regaliamo. No, che dobbiamo no, fare? Bello, ma guarda, che veramente io dicevo questa serie con la speranza di venderla anche all'estero. Questo io pensavo, di fare una serie già molto al cinema. Ci hanno chiamato dagli Stati Uniti e mi hanno non possiamo chiesto soltanto Ago Morre. Ma io non glielo, ma che devono rifare? Loro devono guardare il nostro, come noi abbiamo guardato Narcos, che è prevalentemente girato in spagnolo, cioè sì, la lingua è spagnola, però è colombiano il film, che è su Pablo Escobar. L'hai visto tu? Ecco, se vedessero Gigrobo in romano. Punto. Certo, con i sottotitoli. So, però... che quella storia è ambientata lì ed è su sì, sì, sì, vabbè, è la seconda lingua più parlata al mondo, certo. Loro gli piacerebbe rifarlo in un piccolo paese dell'Iowa, perché succedono ste cose nell'Iowa. Sì, a me mi fa ridere, come l'uomo dei sogni, quando tornano dall'aldilà la squadra di baseball, campione del mondo, eccetera, è lui che aveva ricostruito questo campo di baseball vendendosi tutto, Kevin Costner, quando se ne va, quell'angelo che giocava a baseball dice: senti un po', ma è il paradiso questo? E lui risponde: no, è l'Iowa. Ma te rendi conto? Fantastica. Cioè, pensa, no, il paradiso questo non è Monteverde Vecchio, no. Cioè, o è Velletri. No, io direi Er Quadrado. Er Quadrado. Mi piace di più. Da loro funziona sta roba, capito? Oppure sì, che ne so, un film post apocalittico con una scarpa di Santa Maria che imbocca in un'inquadratura e sotto: qui una volta c'era Er Quadrado. Ah sì, capito. Non è male. Capito, da noi non c'è questa evocazione, nonostante abbiamo la storia per farlo, capito? Ma guarda, tu al Central Park incontri Dracula e ci credi, a Spoleto non ci credi, perché sono bravi, non lo capito? So, ma secondo me sì, secondo me si può fare questo film, insomma, è un tentativo per esatto, dimostrare che noi queste cose le possiamo fare. Ma il western di Leone era un western trasteverino per me. Esatto, era coatto. Mamma mia, quanto era coatto. Ma come parlavano, come è stata la tua, cos'era, infanzia? no, adolescenza, infanzia. Curta. Ecco il coatto di Trastevere che risponde così. Che succede, straniero? Niente, non mi tornavano i conti. Bellissimo. Il mio mulo non piace essere preso in giro. Lasciamo stare. E il vostro è western, veramente. È bellissimo. Siamo arrivati alla fine, possiamo lasciare Claudio guidare in Santa Pa. Dove sei arrivato? La Firenze Nord? Dove sei? Sì, più o meno sì. Vabbè, fermi da Incisa. Firme da Incisa, pietà in caffè, una cosa, dai. Pietà una cosa, pietà tramezzino. Mo me fermo, mo me fermo. Fermate, fai pipì, porto... esatto. E parla, ma stai con film. Tua figlia, Cla? Sì, figlia e madre. Ah, tutte insieme. tre generazioni. Bene, è vero, tu sei il più anziano del gruppo. Va bene, va bene. No, mia madre. Ah, tua madre, io penso alla madre della figlia. Scusami. No, mia madre. Allora do un bacio a mamma, perché le mamme vanno adorate, le mamme di ognuno. Saluto vanno tutti anch'io. Amate, grazie, veramente. Grazie. Claudio, un bacio grande a te, alla piccola dolce Emma e a tua grazie mamma soprattutto. Mio. Un bacio, ciao, buon viaggio, buon ritorno a casa. Mainetti, grazie. Maestro, grazie a te. Grazie davvero di questa bella soddisfazione che mi hai dato. Vorrei essere diventato bravo come te. Io non ci sono riuscito. Ma non è vero. No, no, grandissimo, ma no, bravo come te no. Guarda, io sono un bravo artigiano. Grandissimo ognuno film, spero in un seguito, in un panorama italiano fermo sui soliti temi. Questo film è una gioia. Con questa frase finirei questo film. In bocca al lupo. Crepi. Lo chiamavano Jig Robot. Sta tuttora al cinema. Cioè, andateci. Ciao, ci sentiamo, ciao, e ci vediamo, soprattutto no, vediamo no, ci sentiamo domenica prossima. Voice Anatomy, ciao.